che si trasforma in essere umano. Quella secondo me è la cosa migliore. Bisogna fare degli esperimenti. Beh, il luogo è adatto. E dovrebbe essere diretta. Salve a tutti. Salve a tutti. Fai resuscitare il corvo dando un pezzo del tuo corpo. Del tuo corpo o del tuo corpo? No, un pezzo di corvo. No, un pezzo del tuo corpo. Corvo. Per corvo. Do. Corvo. Resuscita l'uccello dando. Corvo. Aspetta. L'uccello per l'uccello. Ah, l'uccello per l'uccello. Va bene, benvenuti a tre. Keke è solo un personaggio di immaginazione, dopo Rodanas. Ha già sofferto abbastanza. Ah, lì lo sappiamo, cosa è successo. È vero? Vabbè, non sappiamo neanche se c'era prima. No, è tutto normale. Non sappiamo cos'è il suo normale. Hai detto che era normale. Sai la parte che i cani hanno il pelo rigido. Ok, non fanno. Ho solo la faccia da cane. Come dovremmo accorgerci? Balza la gamba per far pipì. No, ho solo la faccia da cane. Porca. Vabbè, ma la faccia porta Ginny. Anche gli atteggiamenti. Oh, quando vieni, Ginny? Allora, benvenuti. La Ginny dov'è? Ginny è, vedi, è parla. Possiamo chiamarla Tata. Sopportato, no? Credo. Dai, cioè, non ha senso. E la prossima volta deve venire, però. Benvenuti al 26esimo. Più che altro, se viene, potrebbe portarci una torta, un qualcosa, visto che credo si delle amiche. Però sì, certo, una torta. Vabbè, tu c'hai questo pensiero fisso e ok. Alcune sono amiche, sono carine. Comunque, vabbè. Salutiamo le amiche. Non c'è cosa più divina. Dicevi? Ma io che avevo detto le amiche, ho detto... Vabbè, champagne. Comunque, benvenuti al 26esimo episodio. Abbiamo iniziato così questo. Ok. La maledizione di Katta, noi siamo Tycoons & Dragons, come sapete ci potete seguire ormai solo su Tycoons & Dragons, RGDR e vaffanculo, e volevo dire ciao, e benvenuti a un nuovo canale Discord vaffanculo. Sì, è vero. Un nuovo episodio della maledizione di Katta. Dove giocheremo come sempre a Dungeons & Dragons versione 5.0. Qui con me, Andrea Giacomo Vecchi da Bologna, con voce sempre più nasale, abbiamo Giulio Bosi, Enrico Catabriga, il master con la barba, praticamente. Lo stanno dicendo tutti, però stai già questo problema. Che devo sembrare più vecchio. Secondo me ci stai invece, stai bene. Di così. No, il problema è bisogna capire, secondo me tu dovresti forse tagliarti quello. No, la mosca, no, sta da Dio. E voi cosa ne pensate? Sondaggio, amici, presto. Amici di Tycoons & Dragons. Presto un sondaggio su Tycoons & Dragons. Delinearlo un po'. Sì, facciamolo un sondaggio, dai, domani sondaggio. Chi muore? Sceo, il personaggio. Dove era questo sondaggio? No. Vabbè, che lì non è neanche un sondaggio, cioè nel senso. Mi viene in mente il vocale di Hack che ripete Ambrosotti. Che nessuno mi ha mai spiegato il motivo. Ma credi che ci siamo. Me l'ha fatto vedere. È stato troppo divertente. Ma infatti no, non capisci il motivo. Allora ci deve essere un motivo per le cose di Hack. Non c'è quasi mai. Il nuovo vecchio amico di Vez. Oh, forse sì. Sì, forse siamo troppo denababili per comprendere. Per comprendersi. Tutte le volte mi vedo sto quello spiegato della vatta, diventa una roba così. Meritate un like solo per la citazione a Braduardo. Ah, giù in cantina c'è la palestra di Arci lì da lui. Per quello che diventa così. Minchia. Per un attimo abbiamo avuto 5 persone che ci guidano. Sì, uno ero io. Uno ero io. Sceo, che cazzo, potevamo fare il record e te stai lì a mangiare. Sì, bellissimo. No, però un Veni Basket 1954, scrive Katta, lascia perdere, sei bellissimo così. Grande. Apprezziamo molto. Grande Veni Basket. Sentiamo anche il delay. Scusate. Sai che una band che facciamo un concerto per mettersi il delay si è messa in diretta su Facebook e suonava così mi veniva 2 secondi dietro per la serio? Veramente? Cos'è? Un complesso musicale per usare l'effetto del delay si è messa in diretta su Facebook e mentre suonava mandava la diretta. Quindi si sentiva l'eco delle note praticamente. Senza dover cosa usare. Ne pensi di Civati con l'autotune? Cazzo, ho iniziato stasera a vedere l'ultima puntata di Propaganda. Sono arrivato al corto di GP. Ma chi è? Arci. Cioè, all'inizio praticamente. Sì, Arci. Oh. Raga, Allora, questo record? È data show. Sono collegato. Bene, bravi. Cos'è questo? Una mappa. Ah, no, ma non la capisco qua, solo su... Ma tanto dobbiamo combattere, quindi non è che abbiamo molto da guardare una mappa. Voi siete qui. No, siamo contro uno che ha trasformato un calice divino in una mazza. Oh, musica maestra, facciamo partire adesso. La facciamo arrivare a... Ma ha notato una citazione di Branduardi. Chi è che ha citato Branduardi? Nelle sue righe che scrivo, non le leggete mai. No, io le leggo, poi non colgo le citazioni, però le leggo. C'è Delirio, ma ecco Branduardi. Oh, oddio. Sì, non l'avevo letto ancora. Sorci. È grosso, è giallo. È Homer Simpson. Mi hai infilato tutti i giorni nel culo. Cosa? Vabbè, ci sta con l'inizio che abbiamo avuto. Che è successo? No, niente. Magari okay, no. Beh, quelli spuntano sempre. Però guarda, in pandan col suo bicchiere sono stati nominati, sì. Vedi? Cioè, bravo Arci. Io non mi diamo il benvenuto anche a Francesco, il grosso, il secco, il vecchio. Lo straccione, volevo dire. Il nostro amico Arca. Arca, è vero, diamo per Arca. Cioè, visto scheda nuova. È vero, Arca, salutiamo Arca. Noi ci siamo. Salutiamo Arca, Edoardo Saladini. No, non ce l'ho dato, domani. Comincio domani. No, dai. E Luca Lazzarini? Beh, intanto lo salutiamo. Poi vedremo cosa succederà. Okay. Salutiamo allora tutti i fan che... Oh, qualcuno fa il 7 qua, mi hanno detto, eh? Non tu. Senti, non sì. Tu. Che la mia foto qua? Vero. Quella è l'abate. Questa è l'abate? Ah, è il tuo medico. Perché avevo plastica. Gli hai fatto il livello, no? No, ma sono in serie. Grazie. Se lui era fatto niente dopo del file dell'altra volta, glielo ho chiesto. L'ultima sessione è stata Giulio che ci porta in fammi giro. Fammi tirare della vita, così. Ah, guida turistica, ragazzi. Tiro di 12, no? L'ultima. Abbiamo ucciso delle ombre che l'una non ha ucciso. L'ultima sessione è stata gita guidata da Giulio. In realtà alla fine... Bombe! Sì, ha avuto senso, è stato maledetto, sì, per aver ucciso un corpo. Vabbè, quello perché ho fatto una cosa io. Quello perché Giulio è... Avrei trovato un altro motivo. Fa delle cose a caso. Va bene. Sono caotico malvagio, Vez. Vezzi, sì, la mia matita. Ma penso che sia l'ultimo di cui provare. No, ecco qua. Come la mia? È tutto lì dentro. È ancora tutto lì. Master ha chiamato la sigla. La sigla sia. Sì, è così da mezz'ora. Ok. Povero Vaz. Questa sembra più figa della classifica. Quindi io prendo. Niente, Vez ha visto. Sistema fa down. No, non è vero. No, perché ho capito, questa va però. No, non è capito, questa roba. Attenzione, più 11 BF per l'arcigliacolo. Che così vetta 76. No, vabbè, no. Quindi soprattutto. Era più bella. No, questo è finissimo. Scorreggiamo, mi passa il mano di giro. No. Per cosa, per mandar via là. Vuoi fargli tutto fare il livello scelto se non vuoi. Che devo fare? Ma scelto, mi sapete carico, fai riassunto. Vabbè, cosa? Lui è stato assente l'ultima sessione. Ah no, c'era. Mi racconto. Sempre. Vabbè, wow. Sempre. Beh, da quant'è che non manca una sessione? Infatti. No, era battuta perché di quelli a correre a fare. Non lo non lo sottolineiamo perché ricordo che stava fatto per me. Oh, sabato brutto! Sera ha detto. Dai che rimontiamo! Adesso forse abbiamo in vantaggio. Bam! Non abbiamo più fatto tu un gol. Sia calcetto invece lì. Al 7 non prendiamo un no, cazzo. No, scommetto che se tu dicessi okay qualsiasi cosa, secondo dopo cadrebbe il contrario. In realtà sì. Non sono un gigantesimo di qua. Anche a calcetto è successo. In realtà sì, succede. Quando è cominciata la sessione? Ma adesso non è bello. No, all'inizio eravamo... Con il level up noi rifugliamo tutto, no? È finito lo scontro. Vabbè. Ti eri fatta a maniera da strada. Sì, vabbè, quella era la volta prima. Io non prendo niente, veramente. Ma bene, dai, questo qua c'è da dividere. Siamo tornati alla vigna. Che la proficienza rimane qui. I corvi. La storia dei corvi. Giulio ha mangiato dei corvi. No, abbiamo incontrato la gente che ha detto che sono... Ah, sì, dai Giulio, fai assunto. No, pensavo fosse la volta prima. No. Abbiamo già bestognato due volte. Siamo venuti a conoscenza della famiglia, però non lo ricordo. Martinko, che sono in realtà i corvi che ci hanno svolazzato intorno. Cercato. Sono dalla stanza i corvi mannari. Polymorph. Sì, sì. con i ricordi mannali e hanno fatto esattamente lo stesso. Mosso, cazzi! Sono una famiglia. Praticamente ora nostri alleati di cui noi facciamo parte dello stesso clan, dello stesso. Allora fanno parte dei guardiani delle piume, di cui noi facciamo Terra, parte, esatto. Siamo membri onorari dei guardiani delle piume. Sì, aspettata. E ci hanno dato bene una piuma di corvo per simboleggiare la cosa. Se questa di famiglia sotto forma di corvo tiene d'occhio tutta la Barovia e ci ha dato un distintivo, ci ha descritto i vari punti strategici tra virgolette della città, cosa sta succedendo. La cosa più di risalto, vado direttamente a Vallacchi. Cioè, sono un po' di cose che ve l'ho detto, però vai, allora, alla torre dove alcuni di noi sanno essere rinchiusa Irina, c'è un branco di lupi, alcuni di quelli che sono presenti sono della compagnia. C'è un branco di lupi, non ho la certezza che siano mannari, comunque c'è un branco di lupi che cercano di entrare nella torre. E poi Less Restoration non si mangia in diretta. Sì, lo so, ma io mangio sempre. Pure Bounce è con la ferita. Dovresti avercelo già da ben prima del mio. Vabbè. No, sì, lo sto scrivendo sulla scheda, non spieghiamo iscritti. Al settimo livello, giustamente. Ti ricordi tutto quello che ti ricordi a Vallacchi? C'è tutte le varie spie che lo stanno raccontando. Mi ricordo che ti l'ho appena detto e di Crest, adesso non me lo ricordo. Vallacchi non esiste più. Non so cosa. No, tu ti ricordi il resto, o l'hai segnato? Mi ricordo tutte le spie che hanno detto. Io parlo la guaritrice, no, in lingua. Non ho ascoltato. Prima. Vabbè, è un minimo. C'è la. È a distanza. Sì, ed è un'azione bonus. È barato come il culo quelle varie quelle. È molto comodo. Però è un incantesimo che usa un'azione bonus, quindi vuol dire che. Quando lo lanci quella persona è la serie, quindi facciamo pubblicità. Sì, sì, però se vogliono The Boys. Come dire, se c'è uno che è sceso sotto lo rialzi in una. Vabbè, intanto dico quello che mi ricordo. Kresk, la spia ci ha detto che. Ah, adesso no, prima, tu ti ricordi le altre spie? Io mi ricordo la torre e Kresk. Le altre spie ci hanno raccontato altro che ti venga in mente. Un sacco di roba. Non me lo ricordo. Se mi accendi una lampadina. Allora sì, ha detto che c'era la fortezza dei paladini. Ah sì, sì. La fortezza dell'ex ordine dei paladini che sono tutti morti, ma lo sapevamo già. È resuscitato. Di fatto. Questo sapevamo già. L'ordine del drago d'argento lo sapevamo già. Esatto. Cioè io lo sapevo, non è. E lo vediamo. Ha come compito quella di far soffrire Strad. Continuare a far soffrire Stan nella sua maledizione. E poi ci hanno detto dell'altra strega. Dell'altra, della strega che dovrebbe avere l'altra. Dovrebbe avere l'altra gemma. Che era la balia di Strad. Che era la balia di Strad. E poi tutto io devo dire. E poi Kresk. A Kresk cosa è successo? Hanno visto uno strano essere. Tu stai ascoltando, vero? Una strana bestia che si muoveva in maniera strana. Uscire dalla città e scappare. Dentro la città è successo un gran casino, nel senso che. Scusate, con il nome di questa città è? Kresk. Della però ci siamo già stati. È la città dell'abbazia. Ok. C'è un gran casino in città perché. Come se ci fosse stato un branco di animali che ha devastato e ucciso in città. In effetti. In più le porte dell'ingresso del cortile dell'abbazia sfondate verso l'esterno. Ok. E dobbiamo indagare perché non lo sappiamo ancora un cazzo. Né? Esatto. No, in realtà abbiamo scoperto che Strad ha liberato i. Ma aspetta, lo fai tu allora. Facciamo come vuoi far tu, cioè notte. Vado al succo. Eravamo indecisi se andare prima da Irina o a Kresk. Siamo andati a Kresk. Abbiamo scoperto che è stato Strad arrabbiato perché la creatura che doveva rimpiazzare il golem di carne. Che era un golem di carne. Faccio i tiri e scopro le cose. Cazzo, sì. Comunque, la creatura che doveva rimpiazzare Irina non gli è piaciuta, si è arrabbiato e ha liberato tutte le bestie create dall'abate, per la città, devastare il tutto. E abbiamo capito che la bestia che hanno visto scappare dalla città era quel golem di carne che doveva sostituire Irina. Chiamarla Irina Bis, se vuoi. Vabbè, quindi stavate arrabbiato fondamentalmente. Come? Stavate si è incazzato. Ma in realtà dopo l'avete incontrato quegli avvenimenti, quindi sembra successo prima dell'ultimo incontro. Esatto. L'ultimo incontro? Ne avete incontrato l'ultima sessione o era quello che c'era? No, quello prima. Ah, ok. Solo che questa roba è venuta temporalmente prima. Un po' di casino, dai. E allora non era incazzato che non si è incazzato. Cioè, mi sembrava. Ma ci sono scagliato un po' di roba, però poi non ci ha neanche ucciso. Quindi. Siamo andati all'abbazia. Siamo stati. La nostra curiosità è stata attirata da delle urla che venivano dal mattatoio, urla bestiali. Sì, un rapporto d'amore e odio. Basilica è la coppia di Irina. Ah, Basilica. Siamo entrati nel mattatoio e abbiamo visto che c'era Basilica. Un altro golem di carne era. Però brutto. Però brutto, sì. Che picchiava un golem brutto. Buona parte delle bestie creazione dell'abate incatenate. Quindi era una sorta di punizione, abbiamo intuito. Il secondo nome. Fatta a queste bestie, ci siamo spostati al piano di sopra perché lui era curioso di vedere la stanza dove è stato modificato. In realtà non sapevo cosa fare. E lì. In quanto cane, cosa posso fare per sviare? No, dalla abbiamo questa. Incontrato due ombre, ma le abbiamo sconfitte. Sei comunque. Ah, sì, vabbè, un po'. Due poi tre. Siamo entrati nella sala operatoria dove lui è stato modificato. Mezzo tarrasco. E c'era il tavolo della sala operatoria ricoperto di sangue ormai secco. Lui, con istinto canino, si è ha annusato e sniffato il sangue e ha avuto tipo delle visioni ed è mezzo impazzito. Noi lo vedevamo avere una crisi epilettica di fatto da fuori. Detto questo, ci siamo spostati nell'obitorio dopo aver visto un'immagine spettrale dalla stile horror di una suora che poi ci detto dopo. C'era di la visione che ha avuto, che è importante. Dai, la tua allora. Però te la ricordi. Ho visto e poi non ve l'ha detta tutta. No, era quello. No, hai capito? Dipende cosa vuol dire a lui. Cosa io avevo detto? Avevo questo. Cioè, cosa c'era detto al finale? No. Sì. No, avevo detto che non avevo visto cose del mio passato. Sì. No, non l'ha detto che c'era. È proprio questo cosa è il trip che si è fatto lui. Sì. No, mi sa che è proprio la cosa che avevo messo. Poi ho detto che avevo visto attraverso i miei occhi. I miei veri occhi, quindi gli occhi del bambino, del figlio Mago Mastro. Lui ha fatto resuscitare, sì. Adesso ha i suoi occhi. E che era da Strad. Quindi abbiamo chiesto come ha fatto a capire perché è lì. È perché aveva guardato tre oggetti, che erano un medaglione che abbiamo preso da Lady Vaktar. Il tomo di Strad, il tomo che Shio gli aveva appena dato e una bambola mia. Cioè tu con gli altri bambini hai visto queste cose? Esatto. Che c'è Strad? Sì. Okay, io quindi so il, che il figlio del borgomastro è da Strad perché ha visto questi oggetti che sono sicuramente da Strad. In più poi nella visione io vedo Bayern, ma questo non ve l'ho detto. Esatto. Oltre agli oggetti c'è anche Bayern. Tutto illuminato da una luce di colore rosso. Che è l'asi. Se non te lo ricordo. No, è il nostro chierico. Non me lo ricordo. Però lui non lo sappiamo. Lui ha detto solo che il figlio del borgomastro è probabilmente da è da Strad, senza problemi. E fatto questo, si è spostato in obitorio. Questa è comunque la tua visione. Potrebbe essere un viaggio basato sul nulla, non è per forza. O no? Cioè, se io so una visione con Katta che vola, non è che sono sicuro di Katta. Lui ha visto e ha avuto la sensazione che fossero i suoi veri occhi, quindi. Addosso al figlio del borgomastro, immagino che una sorta cioè l'ho di proprio legame... vista come se fossi io a vederla. Poi ho visto anche altre operazioni varie che mi sono successe, sia quando me l'ha fatta l'abate, sia nel mio passato. Facciamo la vecchia che vende pasticcini. Tra l'altro, io ho ancora dei rimasugli di pasticcino che prima o poi dovrò usare. Poi ci siamo spostati nell'obitorio. Dove sulla finestra dell'avanzale c'era un corvo. C'era un corvo e lui non si sa bene. L'avanzale della finestra. Ilia. Sì. Ilia è il nome della finestra dell'avanzale. Iliad. E lui ha avuto la bella idea di ucciderlo. E io gli ho portato una balestra. Lui fa: no, non voglio fare. Cioè, ha iniziato a parlare col corvo. Il corvo non l'ha cagato. No, non è vero. Mi rispondeva: diceva ed è volato fuori. Ho ipotizzato potesse essere uno dei martini per guarire Sceo, avete sparato al corvo e quindi io gli ho sparato fuori e sono stato maledetto perché ho ucciso un corvo. Beh, in questa terra non hai mai letto Albatros? E quindi lui è maledetto in termini di gioco, a svantaggio a tutto quello che fa. Chi ti ha maledetto? Il corvo. Chiunque uccide un corvo in questa terra viene maledetto. Per quanto tempo? Finché si maledicono. Qualcuno non fa rimuove maledizione. Tipo il nostro chierico, quello che era strano. Cosa sveste cosa? Beh, in realtà sì, che quando se uccidevamo un corvo si veniva, se erano delle conseguenze, sì, ci hanno detto tipo il primo giorno. Intanto noi facciamo parte di un ordine fondato da una famiglia che si trasforma in corvi. Capisci che non aveva molto senso. Però cos'è? The Song of Ancient Bird. The Rhyme of the Ancient Bird. The Rhyme. Fatto questo, siamo andati nell'altra zona dell'abbazia. Cioè, dentro... Che è tipo l'appartamento dell'abate, per dire. No. Siamo andati dentro l'abbazia, nel portone principale. Ce l'avete lì. Prima abbiamo fatto tutto questo qua, in questo edificio. Poi siamo andati qua. Non è proprio l'appartamento. Va bene, nel senso che qui è tipo la mensa, la zona giorno, non so come chiamarla. Dove vivi, però. Eh? E dove vivi. Vabbè, comunque, qui, seduto al tavolo, c'era l'abate. C'era una tavolata gigantesca e basta. E che pare essere arrabbiato con noi, perché ci gira verso di noi e si trasforma in quella cosa. In verità perché Sceo l'ha infastidito. No, non ha fatto niente. Hai parlato. Beh, sembra buono comunque, no? Esatto. Non sembra cattivo. Però aveva atteggiamento ostile proprio verso di noi. Non so, ha trasformato il calice di vino in cui stava bevendo una mazza. Beh, per il fegato fa male. Cioè, da quello che abbiamo intuito, se la bevi. Correggetemi se sbaglio, però era tipo incazzato a morte, ha visto noi e si è incazzato con noi, ma non è che perché tu hai continuato a parlare, lui ha detto andatevene zitti e tu hai continuato a parlare. No, non è vero. Ovviamente non mi ricordo bene come è stato il dialogo. Quindi mi risveglio in pieno fight. Ma non era stato effettivamente la non era stato detto niente di che. La posizione potrebbe essere un po'. No, non era stato detto niente di che. Però ci l'ha detto, andate. Semplicemente quando siete arrivati in città, a parlare, avete trovato una grande devastazione e soprattutto avete visto che tutti i capi di bestiame sono stati sbranati o feriti. Quindi immagino che per la tua compassione druidica ti sei messo a cercare di aiutare un pochino queste povere bestie. Erano morte. Poi, oppure ferite, qualcuna era sopravvissuta. Ormai. Non no, vabbè, infine. Cioè, se l'altra scelta è andare in fight con loro. Perché non sapevi che ci sarebbe stato un fight, anzi, andavano giusto dalla batte. Per quale motivo? Vabbè. Ci siete andati per sapere. Quindi io non sono lì con loro, questo mi vuoi arrivare a dire. Sono lì che sto curando delle pecore mentre gli amici muoiono con Sceo FK come sempre. Possiamo supporre che tu, una volta fatto il tuo dovere, ti sia poi incamminato per raggiungerli. Sì, esatto. E quindi sei sulla salita che arriva, che stai arrivando. Ne abbiamo perso abbastanza tempo qua, in effetti. E lui è lì che sale, perché è una bella salita. E quindi voi siete entrati nella salone e avete cominciato a fare delle domande a lui dopo, sì, tipo che... cosa è successo banalmente, cose così che abbiamo chiesto niente di... all'inizio sì, nel senso che cosa è successo, e lui va detto è successo quello che doveva succedere, che la mia creazione non è stata accettata perché non è stata ritenuta che non aveva vita all'altezza. Sì, sì, sti cazzi. Leggendo tra le righe, chiaramente per lui la motivazione è quella. Perché non vuole darsi la colpa, che ne sai, non abbiamo la controprova, potrebbe aver ragione. Ti faccio sposare con un golem di carne. Tanto se non fosse stato per me, perché sarebbe stato esattamente con le bambole di silicone, almeno quella è un po' calda. Quindi, cioè, voglio dire, se la sareste anche sposato con di carne. E poi per qualche motivo invece di andare io che ho detto, guardate, sono delle cicatrici in tutto il corpo. Continuate a dirgli delle cose che adesso però non mi vengono in mente. Ma non mi sembra che abbiamo detto niente di particolare, ragazzi. E fatto sta che appunto lui di particolare. No, con la batte non abbiamo fatto niente di... No, hai detto le tue solite cose, tipo posso farti una domanda stupida? No, quelle cose lì. Non abbiamo detto niente. Io l'ho provocato e così incazzato. Sì, è qualcosa, è qual- mi ricordo che avevi detto. Ah, sì, a un certo punto lui ha detto: ah, perché è un'idea stupida, un'idea stupida. No, non ho detto stupido, ho detto che è stato folle. È vero, era un'idea folle, era un'idea folle. Lui ha detto che era un piano folle. Lui gli ha detto: è stato lui a iniziarlo. Ciao, folle. No, ha detto: beh, ha detto, ho capito, è stato un po' folle. E lui fa: sì, ehi, folle, dico, folle. D'altra parte, folle. Atlantico, d'altra parte, ora che il suo piano folle è terminato, la follia della sua folle piano è terminato. Tutta questa follia non si riverserà più sulla follia, sulla folla. Sì, è vero, avessi dato del folle. Cioè, praticamente ha usato la cosa lì, la roba di straccione, sostenendo folle al posto. Ah, volevo dire folle. Volevo dire folle. Ho capito. Ehi, folle, cioè, volevo dire folle, folle. Questo l'abate è stato un po' ballato. Questo l'abate. Tu sì. C'hai un bulbo. Rock and roll. Alla Ace Ventura. Rock and roll. Rock and roll. Bella merda. Grazie. Però quello di maso. Adesso sembri un po' coso. Alfa, alfa. Come chi è Alfa Alfa? Perché sono le piccole canaglie. Un po' sì, guarda la, dove si vede, guardati la diretta. Beh, sta barba catta, scusami. Come? No, non vedi che c'hai il ciuffo. Va bene. Comunque questo è cosa dovremmo fare la diretta di Instagram? Dovremmo farci il canale Instagram, ragazzi. Instagram ti va più di questa merda che stiamo facendo noi su YouTube. Cos'è su YouTube? Fa Alfa. E dove lo metti? È che lui lo usa per far della figa Instagram. Se ci metti ste robe qui. Ah, è vero, che la fa. Anche adesso, adesso gli sfigati sono più fighi. Non sono più come negli anni, non so, 5 anni dove fa. Erano fighi, dove erano fighi, dove erano fighi i palestrati. Adesso, quelli, no, adesso vedi come adesso quelli che giocano a D&D sono tutti enormi palestrati. Adesso i palestrati finiscono su Worldwide Bonazzi. È vero. Ma anche adesso comunque questa cosa qua. No, vabbè, D&D. Sceo, si apre un account Instagram di Titans and Dragons. Sì. Neanche lo deve fare. Sull'account Instagram si mettere le quando gli mandi il sushi in 2 secondi. Li tiri di brutto. Fallo. Tra l'altro se può fare un account collegato Instagram, cioè, vabbè, fai direttamente collegato alla pagina Facebook. No, facciamolo fare Vez che è laureato sta roba. Account Instagram. Il marketing, fa l'account Instagram. Quando siamo a fare il sushi fai le storie di noi che ci abbuffiamo, l'ordine. L'ho sempre fatto. Sì, ma tu lo prendi, lo fai, invece se c'ha il canale murato di follower. Poi scasci. Esatto. Bene, detto questo. No, i scherzi Instagram adesso lo usano tutti, mentre ste caccate non guardano nessuno. Ormai fa anche Facebook, non è nessuno. No, è vero, è dato molto visto. Sì. Bene, dopo per quelli che. Instagram è il nuovo Facebook. Cioè, fanno tutti parte della di Zack e Mario. Cioè, sono proprio parti del suo corpo. C'è chi ha già un assembly a Facebook e Instagram. Un altro che rubi qualcosa, lui. Oh. E WhatsApp, cioè, sì, l'ha detto. Insieme fanno jam. Perché sai sta roba? Sabato sera c'ero anch'io, mi è stata iscritta. Cazzo, dovrebbe essere il primo post del canale Instagram. Vabbè, okay. Dai. Dai. Iniziativa. Quindi. Come spiegare quello che facciamo? Jam. Iniziativa. Quindi, dopo aver insultato il suo credo, lui inspiegabilmente si è. Io ho fatto 3 perché ho svantaggio. Anche iniziativa, vero? Aspetta, stava dicendo qualcosa. No, niente, dicevo appunto dopo averlo. Aver insultato il suo credo e aver detto che per quello che. No, Vezza solo ha detto: ciao, folle! Sei un folle! Detto che era folle! Piano folle! Come sta suonando crede... un piano folle? Purtroppo lui crede che quel piano folle gli sia stato dettato dal suo dio, quindi vabbè, come prende... tutti i piani folli. Vabbè, sia un dio folle non è colpa mia. Ecco. Non è dali più importanti. Vedrai che si calmerà subito. Sei tu il famoso dino incantato? Ho perso vita di migliore, come si sono mi è piaciuta la citazione del che ironia e di Aladino cartone morti, adesso vai a vedere anche il famoso Dino. Ma che è vero, è svantaggio a tutti i tiri di attacco e tutte le prove di abilità. Si vede che l'ultima volta era proprio sanissimo. rientra sempre nelle abilità, perché oh, l'abilità porca voglia. No, l'iniziativa è qua, quindi non è una prova. No, è una prova di abilità per giocare la destrezza. Ah, abilità, scusa, ma ero rimasto avevo visto tre. Qua. Sì, perché? Ho fatto uno più due. Ah, sì. Sì, comunque, cazzo, posso farti una piccola critica? Sì. Tutte quelle che vuoi. Si livella ogni volta ogni 60 anni. Sì, beh, è la critica che gli facevo ogni volta. Però. Sì. Ma che figo. Un interruttore. Sì, sì. Quello che dà la scossina. Dammelo che posso elettrizzare scemo quando sbaglia. Non credo che devi fare anche un sacco di cose. Ci vogliono almeno due cani. No, vabbè, un pochino lì alle fine. Ma non chiudi un circuito, no. Non è che chiudi, dammi. Non chiudi un circuito. Oh, se poi muori non è colpa mia, eh. Dammi il dito. Perché tanto non è che non c'è elettricità. Ah, mi fa, aspetta. Cioè, capito? Non è una fonte di elettricità. Ah, no, pensavo fosse quello dell'accendino. No, quello è semplicemente un interruttore che. Ah no, inutile allora. Forse perché hai questo? Ti ricordi che ce la facevamo fare alle medie? Sì, non era quella la mia domanda, perché ce l'hai di. Si vede che. Vabbè, vai. Fare? Iniziativa! Iniziativa. Io ho vantaggio. Perché tu hai vantaggio? Istinto ferino, il nuovo livello. Il bambino fa istinto di iniziativa. Beh, tu sai, no, che l'animale totemico di Sceo è un montone e quindi ha istinto felino. Cos'è? 12. No, 22 è che non viene 20, però a me mai comunque 7 il primo tiro, c'è quello che conta. 7 più 2. Vabbè, io lo tiro lì. Ok. 14! Oh mio Dio! No, metto che tutti. Ma sono i miei questi! Sono i miei, poi diventano scarsi come. No, il poi diventa scarsi. Mi manca anch'io. Ah, fallo vedere. Quella di 30 riesco a farlo stare in qualche modo. Comunque mi sa che tra un mesetto potremmo iniziare a giocare Alex Arcane. Hai detto anche un mesetto fa. No, me ne sono arrivate le mail che è il PDF che per lo meno. Prima avventura in prima serata, mettiti in fila. No, volentieri, prima ci sto. Padre McGee deve tornare. Un po'. Posso vedere i PF le casse nature che stanno qui. Non ci fa livellare, non ci fa vedere niente, merda. Avete appena livellato. Se vuoi te lo dico io. Sì, ma il sera abbiamo fatto nel 42. Sì, però giuro le sale qua. Sì, vabbè, appena vabbè. Detto all'abate spunta una. Ah, non ho giocato tutto! Gli ha subito spoilerato tutto. No, l'ho detto già come finisce l'avventura. No, non l'ho detto. Ho solo guardato l'abate. Perché se l'hai fatto amico fin da subito la VAT? Perché sapeva già. No, in realtà l'ho scoperto dopo. Però lo sapevi? No, sì. All'inizio no. Ah. Cioè, l'hai scoperto quando ha detto che gli puntavano? No, lo sapevo già. Ah, sì? Sì. Ma come? Ah, come ha fatto? Come? È così segreta questa. Come avventura. Avrà fatto Atanas a sapere che. Ah, per quello anche. Sei andato a vedere in quel senso. Spoiler. E Garo, non sono letto riuscirà a essere utile in combattimento prima solo dell'ultimo chiave? No, ho solo guardato alcuni personaggi che livello erano. Dobbiamo fare come se fosse una parte, tipo, come se fosse una puntata di Dragon Ball, tipo. E riuscirà Garros? E riuscirà Garros a essere utile prima dell'ultimo turno? Speriamo di sì, la fuga di Garros. Io oggi ho 25% di possibilità di colpire. Tanto ho fatto 22 iniziative. Ok, allora, due. Pronto a scappare, primo che scappa. No. Potrebbe essere utile segnare la posizione di Arci. Direi che. Vabbè, fai due turni. Sono okay. Questa mappa è troppo piccola. Fagli tirare un D100, quello è il numero di. No, ma non è utile fare la posizione di Arci. No, nell'anno. Cioè, voglio far tirare un dado, che ne so, un 10 e quello è il numero di turni. Forse un 10. A 3000 metri dal Arci. Oppure fai tirare un di 100, moltiplichi il risultato per 10 e quello è il numero di piedi. Perché? Poi lontano. Perché lui è rimasto giù a curare gli animali feriti e poi arrivando, trattarellando. Ma non è verosimile. Infatti, lui ha anche detto. Sono chiesto anch'io. Sua che è un po' tirata come cosa. Comunque, come vi dicevo, lui fa materializzare questa mazza pesantissima. No, trasforma la cazzo nella di sua di calice. Di calice. Okay. Trasforma il calice in una mazza pesantissima, finemente decorata, che emana luce propria. E le spiega le sue ali maestose. Bevete il mio sangue. Che però hanno le piume nere. E i suoi occhi mutano in queste... I suoi occhi mutano e diventano tipo monocolore, come tipo brillare di luce. Descrizioni, ha una vena sulla tempia che corre. Descrizioni, roleplay. Ma sto ascoltando, gli occhi monocolori. La punta, il mezzo dei cammini nostri. La punta su di voi e vi dice... No. Avete su uno di noi, non è che può puntare. Spostiamo grandina questa mazza. Allora. Sì. Mi avete fatto sprecare anni di ricerche e di raccolte di preziose risorse e di parti. La ricerca non è mai uno spreco. Beh, allora, scusami, non peggiorare. Non puoi rispondergli così. No, no, ho capito, allora, ma tu ti rendi conto. Scusami, ma sei un folle, folle. Tu ti rendi conto che lui dice che gli abbiamo rovinato il piano, non perché siamo andati via, ma perché non siamo andati a prendere un cazzo di vestito logoro. Ti rendi conto la follia? Ma sì, ma è dall'inizio che io lo dico che questo mondo è folle, però. Vabbè, scambi Giordano Bruno. E ora lui glielo devo far presente. Mi ripagherete di quanto ho perduto. Com'era quel coso sulla follia che aveva scritto Erasmus da Rotterdam? L'elogio della follia. Ah, lo conosce allora, è lurido angelo. possiamo recuperare Basilica. Basilica. Prezzemolo. Ora vi dice così. Venite a fare ammenda di quanto mi avete fatto perdere. Fare ammenda. E comincia a camminare verso di voi. Garrosh, cosa fai? Faccio ammenda. Direi che è piuttosto ostile, perciò. No, non mi richiamo a bestie. Fai quello che pare, tanto faccio anche attacco in caudo perché mi sa che questo. Quindi, come siamo messi? No, siamo fuori. Segnatemelo al DF. Vado in ira e lo carico. Ok, quando entri nella sua aura gittata, lui usa la sua reazione per attaccarti. Ok, ha vantaggio adesso o dopo? Avendo usato attacco in caudo? La domanda dopo. No, dopo. Quanto hai? 76. Siamo full, no? Critico. Critico davvero? Ma sul serio? Sì, è fatto bene. È usato la sua reazione quando entro in gittata. Mi serve un dedo. Ok. Ha fatto critico. Cos'è preso il 4? Cioè? Una cosa buffa. Mi dai 4 di 8. Quanto livello? Non mi ricordo. 4 di 8. Non hai preso necessariamente, preso più 2 qualcosa. Ah sì, se non si ha. Non mi ricordo, penso o la costruzione o. Non so. Non mi ricordo. Non c'è anche. Non so, al quarto l'abbiamo fatto 40 anni fa più o meno. Non posso ricordarmi cosa ho preso al quarto, è passato troppo tempo. Mi fa cosa hai preso al quarto? Non è mica un goccino di coca zero. Vuoi la bottiglia di coca zero? Vuoi la coca zero? Cioè, se l'apri per me e basta, no? Beh, se però nel libro. L'avevo anch'io. No, è aperta questa. No, ancora. Ah, non l'ho. L'ha aperta giù. Allora. Vabbè, però cioè, se una bottiglia da piccola la finiamo in due. La bottiglia è la classica. Sì, in due la finiamo. Vabbè, no, se devi arrabbiarti, no. Non sono arrabbiato, sono per te. Folle. Ti spiaccica la testa, la mazza sulla testa. Spiaccica la testa sulla mazza. E ti fa 49 danni. Minchia! È più di metà della mia vita. Ma okay, sono ancora in tempo 34, per indietreggiare e scappare. 35. Si vede che era un po' incauto questo attacco. Hai fatto io? Sì, sì, è nera, quindi. Quindi sono dimezzati. Sì. Quindi sono. È una bottiglia da 66 in realtà, sembra piccola. Tu dimezzi danni contundenti. No. No, tutti in corpo a corpo. Sì, sei ah no, perché tu hai quel totem scraso come la merda. No, tutti in corpo a corpo. Sì, cazzo Maria. Questi sono non una credo, parte sono danni contundenti. Non credo che sono radiosi. Ah no, in quel senso no, ok. No. Radiosa. Quindi li dividi. Cosa dice? Quindi nel posto di 49 si dice di 49, danni radiosi, non radiosa. Ne togli 7. Resistenza contundenti per forati e taglienti. Tutti quelli fisici. Sì, questi la minima parte sono. Ma se l'arma è magica? 8 di 8 erano radianti. Comunque lo riduce? Oppure okay, no? Quello dell'orso sì. Quindi 42 contro 49. Quindi sono a 42. Ah, esattamente metà della vita. Tocca a te. Vabbè, che ti ha fatto critico. Vabbè, piango, ma quello. Ah, tentato! Sì, sì, tentato. È tentato. Ah, giusto. Sì, ma se critico un'altra volta sono giù. Allora, vabbè, ho capito, scemo. Lo faccio comunque incauto, tanto ormai. Ah, ormai. Ma cosa che ho usato? La carta d'opportunità? No, ha usato la sua reazione. Ha preparato l'azione. È come. Ah, ok. Cioè, si è mosso, ha preparato l'azione prima che mi viene vicino, non lo so. 25. 17 passano qui. Non vabbè, non ci cambia un cazzo. Cioè, una volta che l'hai colpito con 25, 11. Con cosa lo stai attaccando? Anzi, rendiamo le cose più veloci. Di cava quella. Quindi un'arma magica. Ma è fortissimo, sto coso. È la nostra portata. 10 a livello. Ho avuto lo spazio per caricare. Sì. Perché noi saremmo dovuti essere al 10 nel frattempo. Invece siamo al 7. Cioè, come hai detto? L'hai rotto la cuffia. Sì. Faccio l'attacco extra. Che ironia. Cazzo, un folle catta. 19. Devo farci stare di livello. Che ironia. Faccio incontrare dei mostri GS10 e le prendo. Beh, merita se Vez smita un po'. 15 danni. Fa. Wow. Perché ho 5 danni fare extra su queste. Poi posso fare l'attacco extra? Sì, certo. Cioè la sfiga è che io sono maledetto, quindi non colpirò 20 mai. A meno che io non faccio. 10. Ho il 25% di possibilità di colpirlo. Vantaggio. Hai segnato? Ah no. Capito, a 17, quindi devo fare almeno 10. Vuoi segnare i danni? Che è il 50%. Vantaggio. Quindi vuoi segnare i danni che gli facciamo? Per avere un'idea. Quanti ne hai fatti? Ne ha fatti tutti 36. Guardi strano. Quanti ne hai di contatto? Ah, è pazzesco, incredibile. Quanto? Allora, più 7. Passiamo alla dei mostri, per favore. Cosa vuoi vedere? Cosa vuoi vedere? Chiaramente è il momento di fare il Vow of Riti. Ma ho svantaggio su tutti gli attacchi. Cos'è il vantaggio? Quanto hai colpire? Più 9. Mi dà vantaggio a colpire. Yes. No, ma cosa lancio? Non trasformarlo in qualcosa. E io gli dico trasformare? No, ma lasciami. Ah, però per il. Sei sempre stato un alleato di Strad. Come ma ora morirà e ora morirai come tale. Cioè, non adesso, però. Tra qualche turno speriamo. Cioè, lo puoi fare magari se comincio a avere pochi. Ma io ho ancora Jack. Ma ho bisogno che sia magica l'arma. Vez. Polymorph va sui danni vita del bersaglio. Sia magica l'arma. Vez. L'alce! Non diventa. Siamo dentro. E chi se ne frega? Guarda come sono. Ma tu ce l'hai l'arma magica? Ma devo usarla. Non lo so, io la uso a prescindere, quindi non ho specificato. Boh. Cioè, in realtà, visto che la maggior parte dei danni che tu fai sono smite, non importa, però. Sì. Ah, cioè, se fosse Lord. Non lo prenderei, però. Non lo so, non puoi sapere. Allora. No, beh, sì, ti riapposto. No? Ma un paladino, forse tiro, sì, paladino dai, sì, hai ragione. Sì. Vabbè, forse il paladino lo sa di base. 15. È resistente agli attacchi non magici. E allora devo andare con Widanger. È chiaramente fatto di legno questo essere. È resistente anche ai danni radianti. Non sono radianti quelli. Sì. Smite è radiante. Yes. Beh, quello ha la resistenza, appunto. Mentre gli altri danni sono armi magiche. Va bene, non vi preoccupate. Vado e attacco. Avevi ragione, Vez, potevi anche non tirare l'iniziativa. Mi dai mano del giocatore, Vez. 15. Manca. Ci fa schifo, madonna che merda. Ah, ma un vantaggio, scusate. Oh! Fattore. Il secondo attacco. Questa è la cosa. 24. Con 17. Allora, è un D10. Alla fine non ho capito Arce cosa fa. Decidi tu quando arriva. Sì. Hai paura che ti dia la merda quel cesso che lo ribalta in 20 secondi, Valak. Vabbè, raga, peccato. Avevo già il turno pronto per uccidere. Non tu, due forse, no. Non da solo, ovviamente. Ma tu cosa volevi fare? Volevi trasformare uno di noi? Non ti sparo niente. Allora, uso l'incantesimo di secondo livello per fare lo smite. Quindi dovrebbe diventare 3 di 8. Cioè di mezzo. Quindi tu hai bisogno di sapere. I dadi dovrebbero essere di mezzo. Che li fai con... Cosa stai attaccando? Battle Axe. Wild Ager, magica. È magica. Esatto. Quindi sono... Axel Rose. E il più 4 pure vale come magico. Sì. Quindi sono 11 magici. Sì. E poi ci sono 3 di 8 ardienti. C'è che 3 di 8 dimezzati, Vez Faitea. Che lo fai? Vabbè, però almeno fa dei danni. Attenzione. Massimizza, Vez. E sono 17 che devi dimezzare. Oh, sono 10 danni quasi che devi fare. Di più, va bene. Siamo comunque 4 contro 1. No, però siamo davanti ai cancelli dell'abbazia. Che vedi sono... che sono sfondati e comincia a preoccuparti. Verso l'esterno sono sfondati. Quanto disto dalla loro zona? Guarda. Beh, io sapevo che andavano dall'abate comunque. Sì, però tu non... Quello che ti ho raccontato del riassunto che sai, sì, no, scusa, qua. Ovviamente no. Ho detto lui, arriva il cancello sfondato, mi preoccupa. Sei qua, sì. Noi siamo qua. Beh, forse sente rumori di battaglia. Beh, corro più che posso. Va bene. Beh, poi parte. Scusami, ma... Beh, fa un vedrà la mia arce. Eh? Boh, non so dove è la tua arce. Ti era detto prima, è fuori. La mia arce è qua, nel continuo. Quindi ancora non la vedo. Non può entrare dentro, penso. Cioè, beh, un po'. Ah, l'alce dalla cioè, porta mi non faccio, ci passa. Devo fare un tiro di perception. Posso fare un tiro di perception? O cioè, no, certo. Devi chiamarmi di te. Beh, però io potrei dirgli. Senti del rumore di colluttazione provenire da. Sento rumore, io però sento posso rumore parlare. Di io aspetta, posso parlare all'alce. E per dirgli cosa? E di andare a cercare gli altri, se so che sono in città. Sì. Ma stai fightando, ragazzi. Ma ha un legame telepatico con l'alce. Ah, è vero che parli. Quindi vado l'alce a cercare, che l'alce si muoverà fuori a cercare, no? Quindi forse lui la vede. Esatto, vedi un'alce scheletrica che esce dalla bazzina. Ah, scappa per la ricordo come alce sono. Sì. Ah. E senti che c'è della concitazione all'interno. Ti fa. Resistete! Amici! L'alce si fa. E potrei montare sull'alce. E diventare un orso schiacciare le ossa. Corri tu sulle tue zampette di nano o fai qualcos'altro? Quant'è la distanza dalla che io so che distanza lì in termini beh, di metri già il posto. No vabbè, in termini di metri guarda, ogni quadretto sono 5 piedi. Dove sono io? Tu inizi da qui. Quindi mi muovo di perché i piedi tu in teoria fai 5 quadretti. 5 come azione. Però comincia a contare. Però posso farne. Faccio full. Fai 10. Cosa? Non puoi fare correre, quindi raddoppi. No, puoi usare l'azione di movimento, okay. L'azione di azione normale per muoverti ancora. Per usare quindi il dash. Fai 10 quadretti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, tecnicamente. Quelle sono finestre, ora. Volendo può provare, cioè no. Se vede che... Diciamo così, ha anche senso che io corra senza trasformarmi, perché non è che io so che state morendo. No, no, certo, però... Quindi corro normalmente. Vabbè, però scusa. Cioè, da roleplay scusa, corro da nano, posso, perché non scusa, so che... Se lui arriva da qui, queste sono finestre, però. Che altezza sono? Non lo so. Corro a piedi, cazzo. Okay. Da dove parto, scusami? No, ma è meglio che tu parta a piedi, eh. Ars, in realtà è meglio che tu parta a piedi. Entri dalla porta. Beh, anche l'orso passa. Dopo più passa l'alce. No, l'alce no, per le corna potevo diventare, aquila. Ha detto lui. No, beh, Vez, è chiaro che se arrivassi arrivare da aquila, Vez. Cioè, tengo un round e arrivo lì, però non ha senso perché non è che io divento No, cioè, che io, piedi, sì, o sento delle urla di tipo stiamo morendo tutti, allora magari la taglia sia più grande quella del dorso. Conta quanto non ho capito dove parto dall'ingresso. Sì. Qual è il quadretto che è questo? Il quadretto questo? È quello lì. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, quindi sono qua. Matita. No, quello è esatto, a me uguale. Dove c'è la P è il parcheggio. No, scherzo, non io. Ok. La P di Pat. E dopo Pat Atlas. Giulio. Ok. Ciao, è stato bello. Vabbè, raga. Ci vediamo, eh. Io ti sento un tumulo che mi chiama. Sento. Cioè, ho visto con i miei occhi che devo farlo dopo aver subito quella tavanata in giugno. Lancia sta scappando, vado a riprenderlo. Esatto. Devi solo tirare con svantaggio. Sì, sì. Puoi scrivere a tua cugina che non ci ha neanche guardato un secondo. Non ci ha guardato un secondo, vergognoso. Sì, effettivamente. Ho fatto tanto, non mi ha tolto scemo. Niente, vado contro di lui e provo a prenderlo in lotta. Mm-hmm. Prenderlo in lotta? Non lo picchi. Cambia molto, sai che non. Cioè, al massimo, almeno gli faccio sprecare un'azione. Mm-hmm. Qualcuno di voi non ha. Che schifo, 10. Uccidi l'abate. Un incantesimo. Fatti per luminescenza. Riesce a vincere. Ma non di troppo. Cioè. Rinco? Riesce lui a vincere, scusa. Riprovo, tanto 3 attacchi. Che succede? Anche con la prendere il lotto. No, ma io. Ah, giusto, due. Vabbè, ho comunque un altro attacco base. Che ti basterà? Forse puoi farlo anche. Boh, va bene. Boh, dice attack roll, quindi non ti rientra col bonus. Però. Non è un dubbio che ci poniamo, perché basterà questo. Bam! 23. Attenzione. Oh, l'abate palestrato viene bloccato. L'abate va schifo, fa il cazzo. L'abate va schifo. Non ho fatto la sfiga. Lo prendi. Preso, Giulio. Lo prendi. Quindi con l'ultimo gli do, cerco anche di infilzare la spada addosso. Ok. Sempre con svantaggio? Sì. Dai, fai 20-20 come ha fatto Salla. Sì, non ho vantaggio in grado. No, 12. Manchetti. Oh, sta a lui. Quindi cosa deve fare? Sprecare un'azione per liberarsi? Per provare a liberarsi. Quindi tu catta di quella 5900 XP, non ce l'hai neanche uno. Chiedo. Allora, se è in lotta, noi abbiamo dei vantaggi o no? Ma se noi questo lo ammazziamo, poi lo curiamo. Se noi questo qua lo ammazziamo, penso che sarà molto duro. Poi lo ricuriamo, lo portiamo 10 HP e lo riammazziamo. E lo ricuriamo. Prendiamoci ogni volta. No. Ci sta di provare. Non riesco a capire con chi dovrebbe essere più incacchiato di tra voi. In lotta con Giulio? Beh, Vex, è chiaro. Io non gli ho fatto nulla e non l'ho chiamato folle. Sono solo lì che lo tengo. Dove vuoi andare, folle? Io gli ho fatto un po' di danni. Però anche Vex. Non so, l'alce? No. Secondo me l'alce. Allora. Gli ha bugito. Userà il suo. No, con Vex. Ha insultato la sua divinità, Vex, mi dispiace. Ti dà due mazzate in faccia. Hai detto se ha in maniera indiretta, chiaro, però lui l'ha presa in quel modo. Indiretta. Cioè gli ho detto, il tuo piano non aveva senso. Cosa vuoi dire che mia madre? Esatto. Inoltre finché lo tengo, Grappled non può volare. Tua madre è una puttana con una sola palla. Con uno ti manca. Con l'altro? Con l'altro ti prende. Come fa secondo? Hai 22 di classe armatura? 25. Ah, culo. Adesso sì. Quanti punti per il Tiger? Tigers and Dragons in diretta tonight! 68. I am the death. No, la cosa è. And tipo, bring the crown. La cosa era tipo. I am... Hai 22 di classe armatura. La risposta era sì. Aspetta, ti back. I am of all of you, signor and padron. Siamo 34. And 30? So I am cruel, so strong and so. Sti cazzi. Dure. Your moves don't ferment me. 30 danni. Ma te sei pazzo, è un folle. A me ne ha fatti 49. Beh, lui è il folle, secondo me. Sta andando con fatto critico? No, no. Ha tirato alto. Il giro di intorno alla stanza. Come si dà? E ti ha marcato con un attacco. Non possiamo farcela. Tocca a Garrosh. 30 Urgrush. Se arriva in fretta Arci, sì. Diciamo che se io non avessi avuto maledizione sarebbe stato per sempre. Ora è colpa di Katta che mi ha fatto iniziare qua con voi, è una colpa mia. Io non sono come colui che corre verso i muri. Che bella tosta, però, che non lo faccio attacco in campo, me la rischio almeno. Il giocatore? C'è il mio. Oh, tu di questi manuali. Sì. Tu hai paura 15. Di queste miniere. Manca tabbia vidiera. Questo. Giocatore. Sì. 16. 17, manca... ragazzi. 17, ragazzi. Guarda. Merda. 15 e 16. Bardistro. Occhio. Devo vedere il Leo Lenz. Non credo che sia... È un'azione. Esatto. Beh, tu puoi indietreggiare e... In realtà... Quante volte hai preso? No, speravo di stare in una di quanti ne hai prese? 30 su 68. Bez. Crema. La paglia. Io 42 su 84. Vabbè, lui toglie metà vita. Ah, anche a lui, più o meno. L'importante è che la distribuzione è che tanto male che io mi curo una volta. Tu, Vabbè, dai, facciamo sta roba. L'Hunter's Mark è bonus. Sì. E mi dà un più... Un di 6 in più. Un di 6 in più se colpisco. Io ancora mi ispiro già non cancellare il video. Mi hai regalato a Sheo sicuramente. Sì. Che l'ha sprecata. Però l'altra volta avevo lasciato la X, così potevo usarla. Invece qui che voglio un ricordo basico. Intanto si prepara il pat perché. No, no, ma combatto. Sì, però intanto dammi la mappetta. Esatto, lì sotto. Più mi passi la mappetta. Tanto lui può andare avanti con la sua che è dall'altra parte. Allora, 20 per colpire dovrei prenderlo. Allora, ti dico subito. Le finestre che altezza sono? 10 danni normali, 10 danni scudi. 10 danni magici. 10 danni magici. Uso lo smite di. Anche qui secondo, quindi 3 di 8. Questo. Devo ritirare. Ah, ritiri, vero? Ah, mi devo passare da questa porta qua? Sì. E sono, no, e sono 16 invece di radiante. Ok. Quindi il secondo attacco. Il secondo attacco è un 25. Sì, 4 turni. E sono altri 10 danni. Tu non lo sai, ma se fai il tiro di fatto moriamo. Secondo me. E direi che uso l'ultimo smite di secondo. Capito male. Grazie. E 8 danni radianti. Siamo quasi alla fine dei giochini. Ah cazzo, ma l'ho tirato di 6, aspetta. Sì. Ho 2 di 6 più normali. Sì. Così c'è una vita. Ah, per l'antenna. Sì. Oh, il 2 lo ritiro. Ah, che sfiga, 1. 6. 10, 30. Beh, gli ho fatto 38 danni. Lo so, però con 26 tiri, 23. Ancora 2 run ci metto io. Hai fatto? Lancio ti fa fretta, tipo. Non ho ancora visto i trialci, non sai. Ma perché l'hai vista? Subito l'hai vista. No, hai toccato che era qua nel giardino. L'alce ti ha fatto. No. L'ha vista già l'alce? Sì, tu hai visto l'alce. E l'alce corre. Mi può caricare l'alce, scusami, se ha fretta. Io non so che voi state morendo. No, infatti l'alce. Sì, quando stiamo morendo, se no. L'alce quando lo vede, si fiora. Cioè, mi fa. Cioè. Volta e va e corre a busso verso la direzione. Poi ovviamente lo io sto una crema, Arci. So. Sperando che Arci. Avvinghiato l'angelo. Vabbè, adesso sperando che attacco... Arci, un druido attacco. Che dovrebbe conoscere gli animali, capire i significati, le parole di conti, dei gesti. Arci che corre, so. Un altro 18 corre. Questo becco. Cosa vorrà dire? Forse terzo attacco. Bagno. Che ironia. Non lo becco, Faccio Action Surge. Sì, ma rega sta morendo, cioè è tempo che arriva è già morto. Moriamo noi. 13. No, poca vita, poca vita. Due turni siamo morti noi. Se Giulio colpisse qualcosa. 16. Ho colpito una volta. Su quanti attacchi? Ha capito, ho il 25%. Non è svantaggio, tu non hai svantaggio, stai iniziando uguale. È vero, ho fatto un tiro di merda in sono 6 danni, quindi 3. Perché 3? Perché di mezzo, scherzi. Contro tutto coso delle cose? Le cose non magiche. Voi considerate anche che, vabbè, non è che io abbia sbaitato a bomba, però perde qui sostanzialmente il giochino. Beh, quello okay, primo sta lui. Allora, scusa, non incontro di te, ma speriamo becchi te, sennò. Tu sei in lotta? Cosa, che vantaggio hai te nel lotto? Non so. L'avere in lotta che non si muove. Lui è movimento zero. Ha le ali, sai. Allora che lotta? È quello che stanno facendo. L'hai tenuto? Ah no, poi anche il vantaggio è che sulle velocità della lotta. No, lui è in lotta, è lui che la si deve liberare. In realtà, o un'azione però. Sì. Ha il vantaggio che perde un turno, si vuole liberarsi. In realtà se lui vuole scappare e volare via, lui va bene. Cazzo, okay. Ah, no, il cazzo. Adesso sta qua. Beh, in realtà a me potrebbe andare bene. Vabbè, ciao, ok. Se l'alce lo riesce a entrare per le corde, dubito che quelle qua non ce lui riesca. Vabbè, ma non è che c'è la porta. Drago, Paladrago. Eh? Paladrago. Benvenuti al Paladrago. Ah, no, stai parlando del... Del qua da vettura dietro. Ma c'è Flamme. Beh, lì fu benvenuti al Paladrago. E niente, siete in una grotta. E voi? Potremmo fare una cena. Trovate un drago. Sì. Sì. Dove? Boh. Quando? Salla so che torna dal 25 al 26. Dicembre. Ottobre. Non ce n'è solo perché sa che sono venerdì, sabato e domenica. No, sabato ci sono, sabato dove ci sono? 25, dove in realtà vai anche il 25 probabilmente perché tornerò il 25. Vado. Ho un dubbio, ma bella chiarita, un'altra volta. I suoi amichetti? Perché? Faccio di merda, voglio tutti di andare via. Quando mi scrive sia Garappolo sia lo Shove. Adesso c'è in giro, è più in giro, ma io sono una rimpiazza. Non hai voluto fare tipo a giorno, non sono sicuro che tu possa rimpiazzare tutti quegli attacchi con quell'azione lì, o solo uno, non lo so. Va bene, ci penseremo un'altra volta. Intanto tocca a lui e lancia un grido frastornante nella frastordente che stato, anche tu senti dall'esterno. E da che punto sei? Ci genera dei dardi. Sì, certo, lo sento anch'io dall'esterno, sono all'esterno. Ecco, le finestre accanto alle due. Okay. Che vuol dire? Le finestre doppio vetro. I rumori che si sentivano nel mattatoio si ammutoliscono. E la terra comincia a tremare. Ok, detto questo, no, dice solo che tu devi fare un attack action per fare uno special mill attack. E se tu vuoi fare multi attacco, questo sostituisce uno di tuoi. Quegli attacchi, quindi vuol dire che ne puoi fare solo uno a turno o puoi rimpiazzare tutti gli attacchi con quella cosa, non so. Va bene, ci penseremo. E niente, nella sua ira angelica vede di finire il lavoro, caro Varlistram. Vai. Sei pronto? Sei a 38, giusto? Quasi. Come quasi? Veramente quasi. Critico? No, non ti ha crittato. 18 ti prendo? Sì. Ok. Allora, basta due. Quanti li dai? 38. Beh, prima ha fatto 30. Eh sì, ma mi sa che va con tutte e due su di me, se ho capito bene. Primo attacco. Ah sì. Vabbè, io vado a terra. Prima ha detto Giulio che ha tirato molto alto. Da casa, sei già a casa. Sì, però questa volta dove vado a terra, non a casa. Sono ritardato. Non so che cosa ha detto. Sei già a terra. Sei già morto. Allora. Dai, su. Ma ha tirato altissimo, in effetti. Il primo fa 22. Hai ancora 16? Dai, dai, dai, non dai. Detto, non è detto. Vado giù, però intanto due le devo usare. Non è detto, non è detto. Ah, ma già tiri per colpire per i danni? Li ho tirati entrambi gli attacchi. Non è detto, credo, però a qualcuno ha una pozza da riuscire. Sì, ha fatto 7 con un danno. Il secondo 25. E gente, sono giù. Vabbè, Bayern, curalo. Ah, giusto. Vabbè, ok, il paladino lo curo. Ah, giusto. No, io sì, potrei curarmi, però sono giù. Arrivo io, beh, se mi facesse questa troiata che io ero FK. Ma Garrosh, tipo diventa orso e sfonda la parete, cioè Garrosh. Sì, è che non ha senso che io da un turno all'altro so che lui è morto, cioè, capito? Vabbè, faccio attacco incauto, tanto la vedo grigio. Cosa succede all'Alters Bark? Che lo perde? Perdi concentrazione. Avresti dovuto tirare concentrazione ad ognuno dei danni che ti faceva. Però una volta che diventi svenuto, la doppia solidaggi. A resistenza. La doppia solidaggi, vero? Con critico. Solidaggi. Per me vuol dire un D6. Non ho trovato, secondo me è sempre tu possa continuare a provare un D6, ma che cosa stai con me? Perché alla fine tu lancio, sprechi con un punto attacco, un più 2 ai danni, cioè, lo sostituisci. Se non avrei un D8, però sì, che mi preoccupa il modo in cui ho scritto quella frase. 9 più 8, 17. Sempre anni. Sono i belli. Attacco incauto solo il primo ogni volta. Sì, solo il primo. Incauto cosa vuol dire? Che io ho vantaggio, ma il primo attacco che subisco avrò tutti svantaggio. Gli attacchi che cioè subisce. Avranno vantaggio, scusa. No, tutti gli attacchi che subisci hanno vantaggio. Che dal prossimo turno potrebbe essere. È vero? Sì. Ah, cazzo. Dico 7 di danno. Ah, colpisco. Ah, quindi ora ti svanga di legnate se ti fu così. 10. Danni. Sì. Ma è in più, ha più 8 danni? Ah, perché sì, sennò che sono anche in io. E grazie a questa lancia qua per 123. Cazzo. Bravi. Guarda di strano. Fatto? Oh, scusa. Tocca a me. Tocca a me. Vende! Quindi sei a 1. Okay. Doppio successo. Wow. Doppio successo. 6 a 1. No, sei su. Ah! 6 a 1. E quindi davvero? Posso fare qualcosa? Non lo so. 6 a 1. Beh, sì. In questo turno. Curarmi, per esempio, di 35. Sì. Fammi vedere cosa dice. Sì. Sì. Lo so io. Lo sa lui. Oh, lo sa. Oh, se lo so. Lo sa. Ma che amico di merda che non ti fidi. Spesso abusiamo una parola. Divino questo. È un segno. Persino Charles Manson si fidava dei suoi amici. Al prossimo che vada imparo ad arci e faccio l'orso. Qua? No, lo faccio, scusa. Quella prende l'orso. Bosche! Mi prende un punto di vita. Il prossimo round io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ma voi, ragazzi, siete piano terra, no? Non siete su. Sì, sono piano terra. Tecnicamente lui non ha fatto azione. Io vado su. Beh, io non sono ingaggiato. Sì, sei. È l'inizio del tuo turno. Sono ingaggiato? Sì, sei di fronte a lui. E prono. Non mi ricordo, disingaggiare è un movimento, è un'azione. Quindi o disingaggio o ti curi. Ti curi, però se ti curi tanto lui ti colpisce. No, no, sicura no, perché? Mi ha causato colpisce un attacco di opportunità. No, però rimane lì. Oppure rimani per terra, tanto lui cade da te. Comunque, beh, se lui ti focussa è comunque un round in più. Puoi farlo. Puoi anche curarti 35 e restare lì. Puoi fingerti morto. Beh, se ti focussa è solo che un bene. Fatti restare tanto. Scusa, non è una battuta, scusa, se ti fingi veramente morto. No, ma che senso ha, raga? Ma lui si cura e lui prende altri svangali e torna a zero. Adesso non rischia niente. Io posso bravo, arrivo, lo curo. Puoi anche passarmi l'ascia, io attacco e poi te la ripasso. No, ma dico, non ha senso che lui stia a terra con della vita. Atomos. Ha molto più senso che prendere le legnate, così salva voi due, tanto cazzo te ne frega. Atomos. Sì. Vabbè, il prossimo mi alzo. Possiamo fare che lui mi passa l'ascia. Puoi prenderglielo. E poi però tipo... Ma allora non sei morto! È morto questo infame! No, è che così almeno se... No, dopo gliela ridò, solo che così se lo becco almeno mi faccio qualcosa. Fa un po' ridere. Bam, tieni! Cioè, no, è plausibile nel gioco. Però faccio ridere. Sono su pezzo d'accordo, però. Ma tu sei rimasto steso o ti sei rialzato? Sono steso. Ma lo chiedo così. Beh, vendetta. Giulio che prende la lascia. Dammela, mancano 6 secondi dalla fine del round. Vabbè, tu puoi provare a prenderla. Io provo a prenderla. La lascio a dare. Prendi lascia. Però con un ma che cazzo fa? Però vedi tipo, vado. Interagire con un oggetto è un'azione gratuita. Tra l'altro, tra... la sua ascia magica. Ah no, aspetta, non è una cazzata, no? Ormai l'hai presa. L'ho presa. Sì. È vero, mi fa dei danni. Chi non è buono e la usa, escono delle spine che gli fanno male. Se colpisco, quindi di fatto solo lui può usare. Quindi io scoprirò effettivamente che Giulio è malvagio. Però 17. Beh, te lo dico dall'inizio. Aspetta, che non è buono. Esatto, anche se sei neutrale ti fa male. 17. Beh, sì, quello potevo intuire. Perché non era buono e... Quanto mi fa di danni? Uno. Beh, però il uno su tre un attacco. Ma chi cazzo se ne frega? Giulio. 17. Danni. 21. No, questi sono i tir per colpire. Sì, vabbè. Purtroppo non è Giulio. Okay. Ma l'ho colpito due volte però. Fumble così brutto che ti cade l'ascia addosso a mezzo. Perfetto, così gli hai ridata. Però ancora le spine fuori del l'ho colpito due volte comunque. Dai, va bene. 13 più 8, 21 danni. Magici. Ah. La tua usi una mano, sì. È morto. Sì. Ah, è ucciso. Wow. Allora, mentre cade aspetta. Con le mani sanguinanti, Gesù. Cazzo, saperlo col piede della terra. Vabbè, ci ha fatto parecchi danni. Così con l'ascia attaccata. Esatto. Beh, cazzo, è stato uno spettacolo. L'abbiamo massacrato. Arci non è servito un cazzo. Arci è stato scelto. Arci è tornato a casa. Sì, non per colpa mia, Beh, l'abbiamo massacrato. Adesso entra tipo. Ah, io gli do il colpo mentre cade. Ma cioè, ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'inferno. E poi soprattutto non c'è. Però in celestiale non glielo dico. È ironico che Giulio che si è salvato da voi. E poi due danni. Effettivamente in teoretica potrebbe essere. No, in realtà non è stato salvato. No, però. Beh. Le ha solo dato i superpoteri. Redento. Redento cosa? Però, sì. Ma lui ha rifiutato la redenzione. No, io non sono redento. No, si è redento adesso. Però perché l'hai fatto? Io così. Dai, vabbè, caotico malvagio. Ma la mazza si ritrasforma in una coppa. No, adesso dalla ferita che gli ha inferto esce questa luce buia. E il suo corpo comincia a sfaldarsi. Intero. La luce buia. Ma non sanguina. Sanguina, che palle, volevo bere il suo sangue. Non credo che sangue. Puoi sniffare se diventa polvere. No, perché per vedere se mi toglie la maledizione. Non credo, però faceva l'ora. Io e fierisco. In quel momento. Su cosa? Non rimane più niente. No, nel senso dico. Ah, ok, a parole. Vai, certo. Vai, folle! Pensavo sul corpo. La tua follia. Sto vedendo risucchiato. È stata la tua vita. Chi è che lo dice? Il tuo essere caduto. E aver tradito. Nel frattempo. Aver tradito. Ti eri torto contro. Tu con la terra tu. Vai nel luogo. Vai, sparisci. Esatto. Nel frattempo tu hai un'altra visione dopo questo. Bello. Questo avvenimento. Folle. Folle. Vedi. Folle. È un flashback del tuo passato. Di quando. Cazzo, però adesso chi mi rimette normale. Vabbè, Giulio, mi hai capito che è drogato la mattina sera. Giulio, magari scopri che sei stato un po'. È un flashback del tuo passato. Però e rivedi quando. Il giocatore non tornerà mai più. Mai. Sei praticamente stato creato. Detto. E vedi questa scena dove dal tuo petto esce questa scia di luce che finisce dentro un oggetto. In questo caso ho scritto no la barra di avventura e poi ti risvegli. Okay. Ti risvegli, voi lo vedete un po' catatonico e poi si ripiglia. Bene, Arci varchi la soglia per vedere uscire da qua una frotta di bestiole mutate e davanti a loro c'è il golem di carne. Che dentro. Va verso il. Che stanno correndo verso il. Ci barichiamo dentro. Dove sono stato chiamato. E ci attaccano. È l'urlo di prima, li avevo qui a cammino. Beh, no, aspetta, no, io corro contro dentro qua. Mentre voi fate tutte queste belle cinematiche del cazzo. Non è che sto lì a FK. Corro dentro. No, non lo sai che come funziona. Durante le cinematiche non puoi fare un cazzo. Tu guardi. Ma io non le vedo. Lo stesso. Io. Però è vero. No! Ci deve essere la cinematic! Cioè, si spegne il sole. Raga, si spegne nei videogiochi quando c'è la cinematic, non è che gli altri che non sono... No, da te tu vedi il sole che si spegne e viene proiettata la scena. Cioè, quando c'è la cinematic c'è solo la cinematic. Il resto del mondo non esiste. Allora si immobilizzano a vedere la cinematic. Sì, va bene. Certo, certo, è così. E quindi? Ti ridò l'ascia comunque. Tu Arci entri, vedi i Kakushi che escono. Bravo. E ti dirigi verso di loro. E vabbè, loro non lo sanno però. Certo. Situazione tranquilla, aprite il portone. No. Vedete Pat che arriva un po' trafelato. La folla è impazzita. Ho visto Simba laggiù. No, scherzo. Dico la... questo cos'è il matatoio? Sì, sì. Dal matatoio è uscito un golem di carne. È seguito da... un'orda di umanoidi mostruosi. Da un'orda di umanoidi mostruosi. Vengono qui? Sì. Cazzo. Vabbè, ci barichiamo. Barichiamo le porte. Barichiamo le porte intanto, sì. Portiamo le entra anche l'alce. Non può entrare. Deve fuggire. L'alce non può entrare, ma è già fuori l'alce. Ma fugge allora. Sì, vabbè, l'ultimo dei vostri problemi, l'alce. No. Dei tuoi magari, ma non dei miei. Pezzo di merda. Quanti punti vita avete? Non lo so, cioè abbiamo tempo di fuggire o no? Allora, non credo, perché dovremmo uscire. Cioè, vediamo da davanti la situazione, no? Cioè, vediamo arrivare così, tipo la serie abbiamo possibilità di, oppure sono qui e dell'unica a chiudere. Allora, noi siamo nella sala. Comunque uscire. Noi siamo nella sala. Arci entra e ci dice da là stanno arrivando. Noi dovremmo nel tempo in cui Arci entra, loro sono arrivati a metà del piazzale. Se noi perdiamo noi qua guardando, ve li vediamo qua. Che arrivano, sì. Secondo me non abbiamo, cioè se rischiamo di uscire in gambo aperto rischiamo di essere circondati. Sì, ci conviene piuttosto barricarci sulla porta dove il loro numero non conterà nulla. È logico. Barrica e barrichiamo la porta col tavolo. Sì, è logico affrontarli qua davanti al portone. Cosa c'è? La porta si chiude però con un catenaccio. Io col martello spacco a metà il tavolo in modo che lo usiamo per barricarci. Ci sarà da chiuderla con il bar. Sì, però io chiudo anche il tavolo. Il come passante, come si chiama? Il bascolante. Allora, sta arrivando tutta l'orda. Abbiamo deciso di barricarci. Catta, prima di arrivare lì, posso fare una prova di perception per capire più o meno quanti di questi ritardati mi sembrano. Dopo posso usare l'abbazia. Oh! Decine di migliaia. Comunque, non aspetta, ho fatto comunque 7. Decine di migliaia, centinaia di migliaia. Ho detto più di 30, meno di 60. I bestioli sono più di 30. Tranquilli, sono meno di 60. Cosa? È quello che ha percepito. Le creature che stanno correndo sono folli. No, dovevi giocartela su volete la notizia buona. Oh mio Dio, ma sono più di 30. E poi però di capo sono meno di 60. No, vabbè, se tu barrichi non hai un cos'era? Un conta pietra, no, cos'è? Fango in pietra, fango. Cioè, modifica pietra. Ho capito, rega, non ce l'ho negli incantesimi Bazza. Cioè, io li preparo. No, vabbè, ma si chiuderà la porta con il coso, poi ci mettiamo davanti sì, per poi non farla fango sfondare. In pietra, chi è che ha il fango? Il tavolo è troppo lungo. Pietra in fango, va no, carne in fango, lo sfondano il ritrasformare. Lo sfondano al primo colpo, comunque. Ci vorrà un po'. E poi comunque li incanaliamo. Rega. In un imbuto. Chiudi la porta, ci spariamo contro il tavolo e poi scappiamo. A no, scappare dal cabino. No, 66, ho preso 3 danni perché ho attaccato 3 volte. Tu cosa che tipo di dettagli? 36. Gli hai ridato. Io 42. Sì, gli hai ridato. Perché cosa volevi fare? Ancora ferita di masso? Ce l'hai? Esiste? No, non ce l'ho ovviamente. Io sa che non curo per principio. Per non darvi un messaggio sbagliato. In teoria il chierico. Per non dare un messaggio sbagliato. Sì. No, nel senso che se voi gli avete le cure, poi voi prendete carta, la carta. Passa poi la roba. Esatto. No, cioè, dopo uno conta su di lui e dice, ah, dai, chi se ne frega, posso perdere punti per ita. Prendo le armi che mi danno le spine, sbattagliato, morto. Vabbè, organizziamoci un attimo, seriamente. Il mio piano è questo, rega. Barichiamo. Sì, in effetti c'è una scala che va giù, però andrai su. Posso mettere al centro? Scusa. Ah, barichiamo la porta, poi sì, o sì, ci posizioniamo nella stanza in qualche modo. Ma scusa, mettiamoci su per le scale, tanto su per le scale ne arriverà una alla volta. Dividiamoci, cioè dividiamoci nel senso circondiamo. Modi. Io pensavo di fuggire. Come fai a fuggire? L'unica uscita è quella. No, c'è il cabino. Se no dalla finestra qua. Babbo Natale. Sì, esatto. Aspetta un attimo. Oh, Beh, in realtà abbiamo un modo per... Allora, se vogliamo fuggire, io un modo per fuggire ce l'ho. Sì, diventi un'aquila e scappi grande. No, evoco delle aquile giganti, divento un'aquila gigante, prendo che... dipende dal numero di aquile, però due sì, ma non passi dalla finestra. Ma non passi dalla finestra. È la figata devastante. Arrivano le aquile! Diavolo! Se vogliamo il piano fuggire. Superiore e il piano se vogliamo fuggire. Sì, sì, ok. Figata. Ok, bene. Ah beh, possiamo andare qua. Questo è uno spazio aperto? Sì. Non ha questo aperto. È, no, è il c'è il piazzale qua sotto. Questo qua. Questi camminamenti sono le mura. Beh, è aperto però. Quindi è aperto. Sì, e comunque sì. L'aquila può arrivare sul, okay, sono sul, i bastioni, sul sì. Davanzale. Questo qui. Con le ali chiuse, poi si tuffa. È vero, no, andiamo qua dai sui bastioni. Vai. E facciamo. Allora, questo se volessimo sì. Fuggire. Siccome però le aquile che io evoco un numero randomico, c'è la sfiga che potrebbero non essere sufficienti. Se no, in tal caso. Ci mettiamo dall'entrata di una porta e affrontiamo dall'entrata di una porta. Vabbè, ma in realtà scusami, passando sopra è top. Sì, vogliamo io. Sì, oltre a quello, però in realtà noi volendo da qua. Ah, scusate, le opzioni. Voi volete fuggire o fightare? Beh, secondo me siamo nelle condizioni di fuggire, sono tanti. Ti ricordi che li abbiamo visti in matatore? Sono tantissimi. Sono meno di 60, però. Sì, però ho capito. Anche fossero 30 più il golem di carne. Non, no, già non solo siamo il golem è tosto, penso. Il golem è grosso, però. Noi abbiamo visto, era grosso. Ho capito, però. Però magari il golem non 30, riesce a salire su per le scale. Però vuol dire 30 vuol dire che ne abbiamo 6 a testa addosso. No, perché non ci circondano, quindi nemmeno un punto in cui al massimo può lentamente bucare le mura e salire scalando. Bisogna fare una tipica cosa da che è più queste qua danno exp o no? Perché se dobbiamo combattere rischiando la vita per nulla, ovviamente non lo facciamo. Ma l'importante è uscire dal combattimento, cioè prendere exp comunque. Vabbè, però aggiungo, vabbè, a me non me ne frega un cazzo, sono caotico neutrale, niente. Da quando in qua scusa fuggire allo stesso premio. In teoria però devastano la città. Devasta sopravvivere all'incontro. Esatto. Chi se ne frega. Sì, vabbè, a noi non ci interessa. Devastano sopravvivere all'incontro ogni volta. C'è un drago! Dipende Vez come no, la vedi. Devi sopravvivere all'incontro, ma aver avuto Vez, anche. Dipende come diciamo, vedi tu tua... il fatto di lasciarli liberi, però. Fatto quello che volevi fare più o meno. Beh, in realtà loro può vedere. Non è che tu vai da un drago e c'è un drago che scappi. Allora. Tu sei l'unico buono che potrebbe. Se però vai dal drago, gli freghi comunque il tesoro. Cioè, questo portone qua è sfondato verso l'esterno. Da Vasilis. Questo ha detto che è tutte e due. Scusa, buttiamoli contro la città. Ah, ognuno dica la sua. Per me il fatto che li lasciamo qui e noi scappiamo mi va benissimo. Ok, credevo avessi per lui anche, direi. A te cambia. Perché l'unico che... No, vabbè, io preferivo ucciderli perché ti divertente. No, l'unico che eticamente può dire qualcosa perché vanno uccisi è lui, credo. Forse anche tu. No, per me è chiaro che più si combatte più mi diverto. No. Cioè, tu vedi il druido che è chiaro che più si combatte più mi diverto. No, io dico... Se dobbiamo combatterli, cioè un druido, voglio vedere il sangue. Dobbiamo combattere è inutile che possiamo il sangue. Cioè io non ho nulla contro di loro alla fine. Sono delle creature anche folli. Folli, ma sfortunate. Sei una di loro. Bella davvero. Tecnicamente sei una di loro. Diventa il loro nuovo padrone. Cioè, ormai questa città è devastata. Guarda che ho però l'altra parte è vero che effettivamente uccidendoli salveremo la città. Non sono un personaggio carismatico che può farlo. Cosa? Effettivamente uccidendoli salveremo la città. Quindi dicevo, possiamo non farlo. Da quando in qua noi salviamo le città, non è il nostro compito. Noi le distruggiamo. Cioè, secondo me è un suicidio. Ok, no, raga. Allora, no, c'è un piccolo monte. Sono 30. Allora, mettiamo il numero minimo. Io posso evocare due aquile giganti. E diventare un'aquila gigante. Quindi tre. Noi siamo in tre. Perfetto. No. Uno, io evoco due aquile. Più te. Sono tre. Uno, quindi io devo caricare uno di... no, si sa. Però la sfiga è che ti danno una percentuale. Nel senso che magari ne va di golem. Vabbè, uno può caricare due nani. Chi sono i due nani? Ah, sei tu l'altro nano, è vero. Cazzo. Vabbè, uno può caricarne due o no. Vabbè, il nano rimane indietro. Cioè, dame. Non può prenderne uno per le zampe. Non lo so, io scappo. Secondo me non la tira giù subito quella porta lì. Non è questione di tempo, è questione di. Loro hanno della gente che vola. Può essere qualcuno che volava. Vabbè, però è la rotazione, però ci sono. Perché io andrei su e comincerei a sparargli giù. Gli facciamo evocare 8 animali e ci piazziamo qui, facciamo la linea. Se no fai tiamo. Io dei giavellotti, cioè... Io ho la balestra. No, l'arco, lui tira colpo. Ah, bisogna anche fare una prova. Io provo a evocare le aquile, se vengono fuori due fuggiamo, se no fai tiamo. Affidarci al destino di un dado è la cosa più figa, però. Dai, boh, ma per me cioè, ci sta anche con... cioè, andiamo sugli spalti, sono molto forti. I bestioli sono delle cacchine, golem, e sono tanti più che altro. Vabbè, secondo me io vedo... se loro non sfondano subito noi li bombardiamo un po' da giù, magari diamo fuoco al tavolo. Beh, dentro abbiamo intanto visto il golem di carne picchiare quanto ci può mettere a sfondare una porta, secondo me non tantissimo. Beh, un paio di turni sì, dipende però quanto bene la barricata. Beh, però la porta aspetta, sarà di quelle comunque, cioè non sarà una cacchina. No, non è una cacchina, però è anche un golem di carne. Vabbè, noi ci spariamo contro il tavolo e diamo fuoco al tavolo. No, così lo indeboliamo il tavolo. Cioè, entra prima. No, però magari prendeva fuoco la gente. No, piuttosto io evoco una sfera infuocata e gliela piazzo davanti, perché posso muoverla da su. Quello è bello. Delle due lui spara una. Il discorso una è sfera infuocata sì, davanti. Sì, bello, mi piace. Davanti alle scale. Intanto noi spariamo a busso, poi verrà qualcuno in su. Effetti, aspetta, io sono il discorso lega che io posso tenere la concentrazione, però sono incantesimo di concentrazione. Vabbè, e ho polymorph che non è male. No, vabbè, ci sta. Dai, abbassiamoli. E se veniamo male proviamo questa roba di poi fuggire. Quante sono le cazzo di scale? Se fightiamo, fightiamo fino alla morte. Non è questa cosa che fightiamo, poi siamo dei cazzi fuggiamo. No, se siamo dei cazzi ci buttiamo giù dai cosi. Io sono in ira, perciò rimango giù a combattere. Se qualcuno mi dà mi pompa un po', mi cura. C'è solo un piano, c'è solo una rampa di scale che basta. Ti posso curare? Se mi curi. Dipende quanti più turni abbiamo. Cazzo, stai giù a aspettare. Quanti turni abbiamo? Andate su. Beh sì, tanto quello che vuoi uscire. Dipende quanto era già per beccarmi. No, no, vabbè, tanto tiro due. Cioè, nel senso, perché qua c'è solo qua che viene. Sì, esatto. E l'altra va tipo questa va giù e questa va su. Ma vedi il sopra bombardare. Io rimango giù e aspetto che sfondino la porta e a quel punto li carico. Ma tu una curetta ce l'hai o no? Sì. Sono in ira, sono un cazzo di barbaro questo. Allora, considera che Esce dovrà cambiare personaggio. No, però lui mi cura prima di fare questo. Dovrei cambiare persone. Vabbè, mi attaccano uno, massimo due alla volta. Dai. Comunque un corridoio. Ma che stai andando te, scusa? Io rimango giù. Niente, fa... quando sfondano la porta. Vabbè, io ci fa guadagnare tempo. Se no, vediamo che. Ma cos'è sta cacata? Stai giù anche noi. No, loro bombardano da su. Al massimo sono due rampini. Se lui cade, ce ne andiamo. Tanto ragione. No, se lui cade. No, raga, no. Ragione, è un corridoio. Io ne combatterò una alla volta. Voi intanto da sopra, da qui. Due alla volta. Va bene, due alla volta, voi intanto da qui cioè, vi sparate. Il siamo è che non complicato. È ragionata Arci, cioè nel senso noi ragioniamo e diciamo andiamo su. E lui fa... E sono diciamo, un barbaro in ira che vuole minare le mani, non è che sto lì a dire no. Ha ragione, allora se scel- tu sei tipo conti come fuori di testa, no? Vabbè, però in realtà dopo non è proprio così, dopo però, un turno anche era... lui è folle. Scusate, ma dopo, folle, dopo no, un però... turno, cioè dopo 6 secondi che non combatti, l'ira ti passa. Ma non so quanto passa da... Va bene, sì, passa l'ira, però comunque sono... La può riattivare con sì, un altro uso. Sono comunque che... in adrenalina. Sì, no, ma nel senso, un attimo di lucidità no, può averlo. Cioè, non è che... un berserk, ok. Però rimane allora, spariamo il tavolo un barbaro con 8 di intelligenza... che vuol menare le mani, cioè questo anzi, anche da sobrio, vabbè, diciamo così, rimane. Spariamo ti dice, tavolo sono soprattutto perché da sopra mi sono completamente vabbè, inutile io. Conto, cioè, gli mettiamo cioè, il tavolo anch'io. Kids, cazzo. Cioè, io vengo sopra, tiro le mie due accette. Ci spariamo contro il tavolo. Ok. E le sedie belle. Barrichiamo la porta. Se è troppo lungo. E poi andiamo su. E poi lui vede cosa vuol fare. Okay. Ma le cose da tirare per curiosità cosa abbiamo? Tu hai l'arco? No, una balestra. Svantaggio. Tu sai ce l'avrebbe comunque. Sì. Beh, cioè io svantaggio comunque, corpo a corpo. Se no possiamo fare così, loro due sparano e te rimaniamo giù e tu diventi tipo no, tu spari intanto sta roba. Invece è una grande idea. Tu cosa? Tu non hai un arco? Ma cosa? Ma lui spara la cosa. No, raga, ora. No, il mio piano era questo. Trasformare Sceo, che tanto è andato giù di testa, in un gorilla gigante. Che è bellissimo! È una scimmia caccia con 60 di vita e fa un botto di danno. In realtà è una marea di pacchi di schiaffi. Beh, questo sì, cazzo, questo sì. Se loro entrano, si trovano davanti a sto coso sì, che occupa tutto il corridoio e pesta e dura un botto. No, a quel punto se mi fai diventare un gorilla. No, è vero, perché lo fai con polymorph, no? Sì, e basta che io tenga la concentrazione. L'importante sicuro, è che io non metta danni. Però il gorilla anche attacca a distanza, che lui può prendere dei pezzi di mura e lanciarli giù. Questo è un po' o può lanciare giù dei tavoli, può lanciare giù della prendere roba. Un pezzo di muro. Vabbè, se vado su non c'è un cazzo da tirare. Cazzo, ci sono i cosi. Ci sono i manichini. Sì, vabbè, 5 manichini vabbè. E poi... No, qualsiasi cosa tiri. I cosi, come si chiama? I berli. Sì, vabbè, ho capito, non so quanto forza abbia. Vabbè, è grosso, Dov'è? Non Non so. Staccare un merlo. Non lo so. Vabbè, è grosso. Staccare un merlo. A forza 23, però può provare a... Se lo stacco un merlo tirerà un corvo. Sì. Però, maledetto. Vabbè. Il corvo è usato come proiettile, non è detto che voglia il corvo. Puoi ritirare. Scusa, quanti attacchi ha? Tu hai due attacchi che hai più 9 al colpire, fai 3 di 10 più 6 per ognuno. Oppure lanci le corde, lanci una roba che però fa 7 di 6 più 6. Chiaro che aspetta, è questa. Ma sì, ok, ma qualunque, c'è anche un sasso, quindi? Sì. Cioè, se io tiro un sasso faccio 7 di 6 più 6. Non è un sassino, è tirare un oggetto che carta di... un masso. Sì. Chiaro che lì non c'è un masso, però magari è un tavolo di... Ma valgono anche pezzi di legno, però magari... No, le seggiole sono le lapidi delle tombe. Se dice rock intende per forza una roccia o tu sei malleabile, se tiro una sedia vale uguale. No. Una sedia sicuramente non vale come una roba che fa deve essere, cioè, deve tirare una, deve tirare, deve tirare tipo nel tavolo. Perché se no, perché se no, se andiamo su tutti, so che fa ridere, ma voi mi date le munizioni intanto che io tiro. Cosa ti diamo? Cosa vuoi? Diamo? Sei una cazzo di gorilla, di merda! Cioè, cosa ti dovremmo dare, scusa? Cioè, le sedie, lanciali la merda, come tutte le sedie. Le sedie, su non c'è niente. Allora, su non c'è. Se sto giù picchio. Vabbè, dai, cosa non c'è niente? No, scandisci il tempo, che sennò non... Tiratemi iniziative. Delle rocce mi servono. Vabbè, comunque ripetiamo, no, sulla no, se mi trasformi così va bene, però no, sì, così non devo prendere danno. Sto facendo un sacco di 20, però per cosa stai facendo? Iniziativa. Nel senso che non devo però essere colpibile dalle cose che volano. E tu vai su e ti nascondi in una stanza. Tu sei in una stanza. Oh, io ho vantaggio però. A girare, non ho vantaggio. Con vantaggio hai fatto 10. Hai fatto 10? Se hai fatto 8 con vantaggio. 10 7 8 quei danni. Ho fatto 20 e 6. No, nel senso che rimango giù. No, se diventi un gorilla stai giù davanti alla porta. Quando la sfondano. Tu le devi toccarmi per farlo? Ma lo vuoi fare a distanza? Pensa che è a distanza. Quanto dura? Ah, ok. Dura tipo un'ora. Un'ora. No. Però finché se io perdo la concentrazione, torno in share. Io nel momento in cui divento gorilla sono cosciente uguale. Purtroppo mantieni tutte le tue stesse mentali. Però no, ovviamente l'unica cosa non posso più comunicare con voi. No, però non è peccato. No, sì. No, però capisco quello che dici, cioè è normale, io sono dentro, sono io, quello che chiedevo. Sì, sì, sì. Però non quindi, dire... quindi non capisci praticamente. Però dovrei esprimerti come un gorilla se quando diventi un gorilla. Vabbè, i gesti li posso fare. 60 piedi di distanza posso farla. No, perché se volevi già essere su, cioè intanto corri, vai. Up to an hour, dici più di un'ora. È fino a un'ora. Sopra, up, vuol dire sopra. Sopra no. Allora va bene, così loro due sparano. Meno di 60 ore. Tu rimani concentrato e magari fai anche delle altre cose nel frattempo a livello di incantesimi. Il discorso è che non posso espormi ai danni, perché se poi entro improvvisamente... Sto dicendo, magari hai una cosa che puoi intralciarli davanti alla porta, è una cosa che lo fai intanto a distanza. Deve essere una cosa che, non, che richiede concentrazione. Però se mi casto in un punto in cui mi espongo... Rischio che mi arrivi uno stronzo in carica di ste acque di merda, sì, che voli, che... mi fa dei danni. La porta è qua, che equivale a qua, in sostanza. Cioè, la porta che noi andiamo a barricare, vedi che qua c'è il tratteggiato? Sì. Che è questo. Quindi la porta che noi andiamo a barricare è qua. Dai, dai una scansione. Perciò se tu ti metti qua, dalla finestra, vedi tutto. Allora, barricate la porta. Come finite di barricarla, sentite schianti che cercano di aiutarla giù. Magari uno tira su 20. Ok. In percezione, ti vedono, tu fai l'incantesimo e fai un passo indietro, non sei più visibile. Si vedono che vari è lì. Ah, vengono a cercarti. Sì, e poi sono dei cazzi. Capito. Che lo vuoi dire? Sì. Cioè magari lo faccio quando vedo che tu stai per diventare ai 10 HP da gorilla. Sì, sì, no, a quel punto mi espongo. Sì, sì. Capito. Quanto anni di HP? Tante, 150. Ti ricordi la pagina? Giant e... sì. Vabbè, provi subito in ordine alfabetico. Ok. Un nuovo animale totemico. Sentite... Fatti gigante. Cazzo, così ci puoi tra... Cioè, possiamo fare tipo... Percezione passiva? 157 punti ferita. 10 no, percezione passiva, passiva. Come si fa pure? 10 bisogno della percezione passiva, cioè mi serve 10 la più percezione passiva. No, però nel senso siamo abbastanza allerta. Sì, mi serve sapere quanto. 16. Io sono in ira, quindi non sono sorpreso. Va sono bene. 16. Ok. Oddio, mi sembra assurdo che possiamo essere sorpresi. No, ma mi può servire per molte altre cose. Ti faccio solo una domanda. Sentire. Spreco un'altra ira o non c'è prima che poi fai i calci? Devi sprecare un'altra ira. Perché in teoria se non faccio attacchi o subisco danni in un turno la mia ira svanisce. Non so se posso tenerla, non credo. No, non puoi tenerla, ma quando è che l'avresti fatta, scusa? Io sono in ira in questo combattimento con l'angelo. Che è finito, lì sono passati più di 6 secondi. Quindi ne uso un'altra, quindi decidi di usare un'altra. Cioè non adesso. Meno che non diventi primo un gorilla. Ah, in gorilla non posso essere in ira, giustamente. Sì, perché no? Non lo so. Bisogna guardare cosa dice Polymorph. Che palle sto scherzo. Secondo me può tranquillamente andare in ira. Come... Ecco, diciamo, secondo me potrebbe anche smitare. Cioè, quindi... posso usare anche... Ora, non puoi usare capacità magi, non puoi castare. Però, se non sono magie... Ma non smite... E posso usare... Cioè, uso uno slot, quindi una magia. È una magia. E posso usare la mia lancia? Come gorilla. No, guarda che cosa dice Polymorph. Vuoi lanciarla? Dipende se Polymorph dice che il tuo equipaggiamento si fonde con te stesso. Sì, di solito è così. Ma soprattutto a meno che tu non appoggi la lancia, diventi gorilla e prendi la lancia. Ma soprattutto scoldero dai. Però è piccola la lancia per te. Cioè, come se tu improvvisamente. Vabbè, poi in realtà no, non mi conviene. Questa spell trasforma la creatura che tu puoi vedere in un raggio. Vabbè, non ho affatto. Soprattutto scoldero ha la capacità, la scibbia di. La trasformazione dura per la durata. Dipende cosa intende. Dai cartoni animati, cioè dato pratico non è. No, però dipende cosa intende. Dipende cosa intende lì. Ah no, quando rimango io con dal piano di sopra sentite provenire la musica di un violino. No, no, faccia di cazzo. Cosa fai? C'era il tipo. Ah, beh, quello con due teste. Sì. Dovrebbe vai, essere un toccata. Vabbè, ok, comunque ho 56. Ma l'hai fatto quindi? Ah, non dopo ancora adesso. Allora, siamo qui, il tema lo sapete va andare su. Qua allora dice la creatura su, è limitata nelle azioni okay, che può fare. Quando tocca se non facciamo confusione. Ok, dalla natura della tua nuova forma. Quindi non puoi parlare, vabbè, non puoi castare, okay, o non puoi prendere qualsiasi altra azione che richieda le mani. Che tu sei. Tu usi la parola. Da qui. Okay. Quando tu diventi i piedi. Sali per questa scala. Io voglio andare qui fuori. Ok, col tuo movimento riesci ad arrivare alla fine della scala. E cosa vedo? La porta è aperta spalancata. E? E senti nell'aria non mi converrebbe questa musica numeri. Ma proveniente da, da fuori, fuori. Ok. Ma lui è sul, sei sul piano? Lui è arrivato alla fine della scala. Ok. Beh, magari se c'è una i due nani prima la scaglio. I nani. Stavo 10 avete fatto. Li tu guarda, li vai prima tu. Vabbè, io casto. Io casto la palla. Un botto di danni adesso, che figata. Casto Polymorph su Sheo. Ah. 157. E gli dico da, vai e colpisci. Va e riempilo. E poi ora sei più carino. E poi come sono messi loro a punti vita? Come sono messi loro a punti vita? 66 su 69, Vez a 36 su 68. Lui avrebbe un po' bisogno. Faccio due curette a Vez. Non puoi farlo solo round. È un movimento e una sali su una scala. Ah, perché stiamo ancora facendo. Io sono su da round. Allora vado su verso di loro, voi siete già su? Vez è salito per le scale. Cioè io sono giù. Allora raggiungo loro cercandomi. Voi state andando sugli spalti? Io sono ancora giù perché non è ancora il mio turno, ma l'idea è quella. Allora vado. Cioè, tu arrivate da qua su, guarda, ti faccio vedere. Arrivate da qui, tu resterai dentro la stanza, presumibilmente. Cioè immagino io, ti conviene. Sì. Bene. Sulla costruzione un botto io più 7. Poi urli a urli fuori. Come sta andando? Garrosh. E io nella mia nuova forma. E sfondo la porta e esce. L'idea è di mettermi davanti alla porta, tipo di un paio di passi, che quando arrivano è. Se c'è una roccia però mi preparo. Non c'è una roccia. Il tavolo non posso. C'è un oggetto che serve. Sì, se abbiamo, sì, l'abbiamo usato. Non ho detto che non sono vari. Un tavolone c'è camino. C'è qualcosa che posso. Dei mattoni. L'abbazia. Posso semplicemente fare una piccola osservazione? No. Cioè, perché cazzo avete barricato la porta se l'ho trasformato in un gorilla gigante che non vediamo l'ora che entrino? Perché così intanto loro gli fanno danni, gli fanno danni. Facciamo un po' di casino e cioè, saranno tipo in teoria quella parte lì è intralciati. Dalle macerie dici? Beh, cioè, un cazzo di tavolo in mezzo. Che sfondano la porta, poi io ho vantaggio del fatto che loro rallentano il cespicante. Sì, sì, ma lui deve stare comunque davanti alla porta in modo tale che lui non sta davanti alla porta, lui sta un po' dietro. No, lui deve stare. Regà, lui deve. Dov'è la porta? Ma guarda come è fatto, Arci, c'è questa. Deve stare davanti alla scala. Davanti alle scale. Sì, sì, ma sì, ma deve stare nei due quadretti immediatamente dopo l'entrata. Esatto. Sì, vabbè, non è il tavolo. Regà, davanti alla scala. Non... Sì, vabbè, per non farlo entrare. Perfetto, perché il tavolo. Perché l'Italia grande. Il tavolo è qua sopra, cioè non abbiamo messo in verticale qua, tipo a intralciare. Sì, quindi lui comunque sta qui. Cioè, va bene, perfetto. C'è la porta barricata, il tavolo. Cioè, non riporta che lui stia esattamente davanti, riporta che sia. Quello è il tavolo. Esatto, esatto. Quello è il tavolo. Questi quadretti qua. Sì, ma il tavolo non è che l'abbiamo messo, cioè, l'abbiamo messo in verticale. Uno indietro, in realtà. Vabbè, comunque sì, più o meno. Il tavolo. Comunque, non facciamo che i quadretti. Quindi lui dice davanti alle scale, sì, e le scale. Cioè, non abbiamo mai fatto dei quadretti. Per di fare capire. No, sennò poi cazzo trova l'inghippo e ci fa passare queste cose ai lati e lo circonda. Se uno gli dice davanti alle scale, se quello passa, beccherà un attacco di opportunità. La percezione passiva è 14. Ok. Non ho capito, scusate, sto tavolo dove l'avete messo? Abbiamo messo in verticale, nei due quadretti davanti alla porta. Cioè, okay. Sì, però è in verticale, capito? Sì, ho capito. Okay. E se non c'è nessun tipo di oggetto che possa sostituire una roccia o qualcosa che possa lanciare, niente, mi preparo. Mi boh, ci sarà tipo qualcosa. Ci sono delle sedie, però ho detto che le sedie non. Le sedie. È un D4. Un pezzo di tavolo, magari non è servito tutto, non lo so, allora niente. Non è che abbiamo, rotto il tavolo, tagliato. Il tavolo lo lancio nel momento in cui sfondano la porta. Due degli arnesi del... Per prendere le scale di legno che vanno a piano di sotto. Bello. Beh, posso prendere quelle che vanno a piano di sotto? Sono di pietra. Ah, non beh, posso staccare un gradino. Cioè, c'è un gorilla. Dai, capito? Cazzo, gradino di pietra. Dai, sta. Se vuoi, ci puoi provare. Dopo di te, tocca. No, no, niente. Mi metto lì. Salgo sopra. Ok, arrivi anche in cima alla scala. Posso preparare l'azione, però? Sì. Che se appena sfondano, tiro dei pugni. Sì. Ma l'arma dell'angelo invece è scomparsa. Sì, insieme a lui. Ti pensare. E la coppa? Neanche anche quella è scomparsa. Tra l'altro, all'inizio ho pensato di disarmarlo l'angelo, però. Penso che sarebbe comunque scomparsi. Ok. No, è che i danni radianti li fa con qualsiasi arma, cioè non è l'arma in sé, che è lui che rende le armi che tocca. Che rabbia. Ok, allora, sentite altri due schianti contro la porta. Pensa Shio che adesso è in mano la tua vita, io. Oh, Patk, e foca le acque. Le dita, tu tornisci, io davanti a tutti quanti. Non ho capito. Pensa che adesso io. Stanno scherzando la cagella. Tutti quanti. Il golem che sta per me. Devo sturare di sorpresa, magari improvvisamente. Tutti quanti sono. Patk, evoca le acque. Esatto, evoca. Giusto le acque. No, scemo. La musica che viene da fuori si fa più lontano. Da fuori? Sì, dal piano di sopra. C'è la porta aperta. Mm-hmm. E da fuori viene la musica e si fa via più lontana, si sta allontanando. Musica, musica. Quindi sta andando verso il mattatoio. Sta andando verso il mattatoio. Guardi, strano, cosa fai? Cioè, questa musica è presumibilmente in quest'area, sta andando là. Mi piacerebbe uccidere una delle due teste. Ma non lo vedo io sto coso. No, voi siete in questa stanza. Sono alla fine delle scale. Siete qua. E sentite che io intanto arrivo all'ingresso qui. Vedi fuori. E cosa qua vedo? Davanti al portone c'è il golem di carne che sta prendendo a ceffoni la porta. Beh, per sfondare sotto. Sì, sì. Ok. E intorno a lui c'è una massa di una ventina di mongrel di Bellevue. E sono più di 30. Sulle spalti. Sì. All'altezza del manichino che sta a nord, no, dov'è il nord? È là, a sud. A sud qua. Più a sud, più a qua. Sud. Sì. Meno a sud. Qua. Lì, esatto. C'è il violinista, che non mi ricordo più come si chiama. No, sono due teste. Ah, che sta suonando. E vedi che un altro gruppo di mongrel è ritornato dentro al mattatoio. Stanno arrivando fuori da qua. Era ovvio, col golem di carne che si muove, il violino deve essere forza per fare, scusa. Mi sa che divento un topo e mi metto in un buco. Oh. Però non perdere la concentrazione. No. Il formaggio è fondamentale. Devi diventare un cazzo di orso. Io divento un topo e mi metto in un buco, però non è male. No, così non mi perché dov'è Argy? Squid. Così non perdo la caspella. Lui è un burger anche lui, quindi vostro figlio ucciso. Però è più, almeno sembrava più lucido. E aspetta, da terra ci sono due mongrel con le ali da pipistrello che volando arrivano sugli spalti all'altezza di uno in ogni all'altezza di questa armatura e un'altezza di questa armatura. Allora facciamo così, io vorrei fare questo, vorrei prendere, cazzo, però era ovvio. No, vabbè, non ho bisogno del mare. Dimmi che stai suonando questo, ti prego. Prendo l'ash. Cos'è la magia di No. Anche stai io. Che per attirare il mostro suonava questo. Quindi c'è un golem di carne sotto. Al tizio, al violinista, dico: ferma tutto questo. Aiutaci a fermare tutto questo. E vi lasceremo andare liberi di vivere la vostra vita. Persuasion. Non gli hai detto una bugia in realtà, quindi Persuasion per dire per una volta cagami. 18. Effettivamente è quello che pensi, non è neanche sì, così che la mia azione di uscire a sparare. No, e aspetta, e però preparo l'azione perché se qualcuno di tipo sti stronzi mi attacca io lo colpisco. Preparare l'azione e alla prova sono entrambe un'azione, quindi uno fa l'altro. È un'azione parlare? No, fare una prova di persuasion. Persuasion 2. Hai fatto una prova. Oh, vabbè. Cioè, o lo dici senza. O lo dici, no, senza, lo dici senza tirare. Boh, sì. Cioè, se prove. Sì, è fare un'azione. Comunque, usare una qualunque abilità è fare un'azione. Da regolamento. Sì, sono d'accordo con te, però. La figlia parlo. Ma se anch'io l'ho trasformato non vorrei intanto. No, beh, un'altra cosa. Il nonnetto che si chiama Clovin, sì, mentre continua a suonare si gira verso di te con la faccia quella adulta in lacrime e dice: io ci sto provando, sto facendo del mio meglio, signore. Sta veramente suonando per attirare il golem di carne, impazzisco. Bellissimo. E continua a suonare più forte mentre sia lui che la seconda testa. Ricorda, cosa dovrebbe fare questa specie di violinata, scusami? Forse è magari veramente una musica per calmare. Beh, non gli ho sparato direttamente una freccia da solo. No, aspetta, non tu, ma tocca a lui dopo. No, perciò dopo, mentre tu gli dici aiutaci, tocca in aria. Ci sto a provare. Vabbè, continuiamo che vai sempre prima tu. Non abbastanza. No, svantaggio, ragazzi. Potrei mancare. No, colpisci i pipistrelli, dai, calmati. Tocca i nani. I nani. Curami. Ha detto io dico lo curo, ma se parlo è un'azione. Lo curo. No, che ironia. Non perdo la concentrazione a curare. No. Vabbè, ti faccio 3 incantesimi di figa. Uno. Faccio cura ferite leggere. Tipo cura ferite Gatling. Scusate, Katta, io il cura ferite posso lanciarlo di secondo e di terzo? Sì. Fino anche di quarto, non c'è di quarto. Però hai già usato polymorph. Ok, no, sì, no, di quarto. Giusto, mi faccio un ex. Anzi, no. No, di quarto, di quarto ne ho fatto uno. Basta, la prima cosa che hai fatto. Gliela faccio di. Beh, dipende, fai il secondo, dai, let's. Stai bene. Che stai bene. Forse anche uno di terzo. Una bisogna, pacca sulla spalla. Ma nella realtà. Quanta vita hai? È tipo 38. E gli mancano 30 6. Punti. Credo, no, ma è nella realtà che ne ha più bisogno. Tra la gamba. Faccio di terzo, ma è solo perché sei terzo. Sto cercando di impietosirti. Guarda che merda. 11, 14, tanto più tanto 3. 17. Metà di 46, 53. Stavo cercando di impietosirti. Quindi con azione bonus. Vai con la tua azione bonus. Healing Words. Se usi un incantesimo bonus, puoi solo lanciare un cantrip con l'attuazione. Quindi se usi un incantesimo di livello con l'attuazione non puoi usare un incantesimo bonus. Ma sui cavilli vediamo. Mi sono andato in giurisprudenza. Perché non hai fatto l'avvocato, Catta? Allora io... Obiezione, vostro onore. No, allora sono fatto... Chiamo a testimoniare. Beh, dipende. Catta, cioè, dove... Io, cioè, fatemi un attimo capire... Stai sulle scale. Cioè... Sceo è tizio, sono atterrati qua. Effettivamente per curare Vezza devi le porte. Devi avete sbarrato la porta, se no andiamo diretto. Però sei sulla soglia della porta. In questa stanza cosa c'è? Vezza è fuori. In questa stanza c'è un lungo capitolo di descrizione. Chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi. Cammino. Devi avere la concentrazione che devi. Cammino con gli occhi chiusi. C'è un raffinato arazzo alla parete che raffigura. La descrizione. Dai, li apro. Ti deconcesso però la descrizione forse così allora è vuota o no? No, non è vuota. Cosa c'è? Sono delle... c'è un golem di carne, le rocce. Tutte abbassate. Ci sono delle lanterne spente alle pareti e c'è una campana di bronzo con una corda. Beh, la campana di bronzo, oh mio Dio. Di quelle no, beh, comunque, esatto, mi chiamate perché allora c'è la corda, non puoi stare sassala giù che pende a 30 piedi sopra la vostra testa. No, sopra di noi. Credo sia la stanza è riempita col suono della musica. Provate a suonare la campana. C'è un tavolo di legno sopra il quale c'è questa. Questo telo nero che copre una figura umanoide. Sto detto che c'è un golem di carne. E... ah, c'è cioè io sopra figura cioè, bianco senza. Copie per il fuoco, sono stato bravo, non hai costo. C'era nella stanza, eri stato bravissimo. Non ce l'ha detto nessuno. Però tipo in realtà sono passato di fianco un mostro gigante. In un angolo c'è un cumulo di pelli. L'angolo nord-est ed è circondato da bottiglie di vino vuote. Una lampada d'olio che accesa in un tavolo lì vicino. E vabbè, abbiamo una cosa per fare il fuoco e tagliare il velo fugascino. Esatto. Tagliare? Il velo fugascino. Grazie. Prego. Quindi scusate, dentro c'è un mostro in queste stanze? C'è un cadavere. Cioè c'è una figura umanoide ricoperta da un telo nero. Ma sdraiata? Sì. Ah, ok. Per il momento, per almeno. Vabbè, no, diciamo che mi nascondo da qualche parte. Dove posso nascondermi lì? Sotto il tavolo. Sotto il telo? Perché tu mi nascondi? Cos'è? Bad Boys 2. Tu sei andato e hai curato Vez. E il tuo turno l'hai fatto. Non puoi anche nasconderti. Ma perché vuoi nasconderti? Cazzo, sei Atanas, cosa fai? Devo tenere vivo lui. Se mi arriva uno schiaffo per la concentrazione, lui diventa nano e lo stuprano in tutti i posti. Salgo di sopra e guarda cosa c'è sotto al telo. Vabbè, mi nascondo, non sto lì. No, no. Tu fai la palla, aspetta, fai la palla. Apri la palla il telo non posso fare e vedi una serie di parti umane invece la palla. E un cadavere. E quel cadavere ha le tue sembianze. No, rega, bellissimo! C'è un cadavere che è uguale a Giulio. Le mie sembianze di quando ero umano? Di quando ero umano. Ne ero violentiamo tutti gruppo. Io gorilla! Io gorilla! Potresti solo con due cazzi. Spiace. Perché la prima cosa che non ti va bene, non voglio sapere. Cioè, quindi c'è un cadavere con le mie fattezze umane. E riconosci che è un cadavere con tutte le parti del corpo attaccate. E riconosci che alcune parti sono tue. Quindi i pezzi che non hai. Ok, è un altro golem di carne che stava facendo sostanzialmente. Sì. Che non era in teoria Irina, direi. Se ha la sua faccia. Beh, magari. Tranne gli occhi, però. Gli occhi ce ne ha il bambino. E tu non lo sai cosa ha preso lui delle tue parti. Non tuttavia, beh, sì, visto... so che ha preso tutta la mia faccia. Eh no, se la testa è qui. Cioè, questo cadavere ha la sua faccia. A lui sembra che abbia i pezzi della sua faccia. Ehi. Tu non ce li hai, ragazzino. Anche perché, sì, questo che riconosce. Ragazzino, i miei occhi. Non la tua faccia. Dico, tu non... No, ma sei scemo. Io ti ho detto che ho visto attraverso i miei occhi, non ho detto che il ragazzino ha la mia faccia. Appunto, dico, tu non sai che... Anche perché io non avevo toccata la faccia al ragazzino. Avevo sventrato da qua, ho aperto manualmente. No, io la faccia al ragazzino. Cosa fai? Gemini Man ti ha ispirato questa cosa o... No, c'è scritto alla faccia del primo che solleva il cosa. Riconosci le parti, le sue parti come tue. Cosa fai? Ma mi sembra morto morto. Ma lo so. Non c'è il coso del, no, del nel senso, cardio... Non è cucito abbastanza bene, cioè proprio ancora in divenire. Ci sono alcune parti che sono da assemblare, ok? Però il grosso è intero. Buttatelo. Vabbè, lo lascio lì. Cosa ci devo fare? Spara, poi picchiarlo. Golem attivato. Cosa? Appunto, metti che magari ferendolo lo attivo. Ok, quindi fai. Sì, lo riabbasso il telo abbozzando e ricordandomi che magari di indagare dopo. Ok. E poi se mi rimane nel movimento mi avvicino a Vardistra. Arrivi dove sta Vardistra. Dove cazzo combattiamoli tutti. Non dice mai. Combattiamoli. No, però. Non so, dipende quanto pensi possa durare. Sì, dipende quanto siete bravi. Uccidiamoli tutti. Beh, arriviamo a mezzanotte come al solito. Uccidiamoli, dai, uccidiamoli tutti. Cazzo stai. Possiamo aiutarti. Si deve andare a mezzanotte facendo ste cacate o possiamo giocare? Ma come ti vogliono bene i giocatori? Addosso, porca sale. Improvvisamente dal tetto, da sotto terra, un punto di bilancio, scondi gol e indicare la carta. No, colpisci più, colpisci in realtà, non lo fa. Il golem di carne non ho ancora fatto. Ma non ne sei accorto? Hai fatto metamorfosi e sei diventato una scimmia normale. Sì, la porta. Tipo Giorgio, hai presente il cartone animato? Giorgio la scimmietta. Ho un nipotino in casa, guardiamo i cartoni animati. Tra l'altro il produttore di quel cartone era un Howard, quindi. Buto lì. Sì, ha anche fatto Soul. Vabbè, quindi posso cambiare questo con questo, perfetto. Ho risolto. Dai che facciamo l'otto, raga. Sì, perché no? No, c'è più di 60. Non è spinto. Abbiamo bloccato tutto. Le voglio delle ali. Senza contare il golem. Ormai. Voglio fare il cane alato anfibio. Però se uccidiamo il golem con la faccia di Giulio, cioè a livello fisso, cioè. Non è ancora animato quello. Però secondo me. Giulio contro Giulio. Sì, faccio sei qualche livello in più. Qualche livello addirittura più di uno. Questa campagna fino a che livello arriva? Finisce con voi che sarete al 10. Al 10. Ah, non siamo tanto lontano. Punti di vista. Livelli. Potrebbero essere anni, però. In realtà sì. Beh, anche perché comunque questa è una parte, cioè poi lo sconfiggiamo strada in teoria alla fine di questa avventura, si capito bene. Se finite l'avventura, l'avventura finisce. Con voi che convincete, che sconfiggete strada. O che ci uniamo a lui. O che ci uniamo a lui. No, dall'1 al 10 va. Io mi sto impegnando in un'avventura che ha già una fine. Aspetta, stiamo perdendo. Qual è il lieto fine? Poi stiamo perdendo di vista gli obiettivi. Il lieto fine di Vex. Esatto. Tra l'altro. Ognuno ha il suo, il lieto fine di Giulio è diventare. Brutto se poi al 10 finiremo il 10 prima di affrontare strade. Perché finire una campagna e salire di livello, no, sì, livello sì. Che non userai mai. No, chiaro, però è la ricompensa. Che ironia! No, sei serio? Beh, faccio salire prima di grazia. Se ve lo meritate. Siamo appena saliti al 7. Capisci anche tu l'ironia della cosa. Sì, è ma però... a quel punto arrivereste all'11esimo e quindi per questo discorso potresti... No, perché battere strada ormai dopo non significa niente. Vediamo se dai. Ma tanto non sconfiggeremo, straccialleremo. No, ma quello che io dico è, io non mi posso fare un piano di prendere certi talenti, certe cose, se poi finisce la campagna. Che cazzo di ragionamento è? Allora è come dire, la vivo molto più alla leggera, so che comunque al 10 muoio. Non è che muoio. Muoio nel senso che finisce la campagna. Beh, i personaggi, se vogliamo, possiamo riutilizzarli. Potranno esserci avventure diverse. Questa finisce l'avventura in Barovia. Sì, volato pratico. No, ma se voi dite finisce l'avventura a Barovia, ma poi Katta continua a fare il master e andiamo avanti, è un conto. In teoria volevamo fare anche altri giochi, però possiamo anche continuare con Katta. Di materiale ce n'è un sacco e sta continuando ad uscire. C'è il dungeon del mago folle che arriva fino al ventesimo. Per questo che sto dicendo, folle, ha detto folle, ha detto folle, ha detto folle, ha detto folle, hai sentito? Ha detto folle. Sì, lo so. 40 piedi. Ha anche il fatto di salire al decimo dopo. I due mongrel che sono volanti svolazzano, ti svolazzano addosso. Ho un persuasion preparato. Fanno due attacchi, uno con l'erba. Molto meglio attaccare con il golem di carne su del tema. I loro. Smettetela di svolazzare! I loro artigli. Quindi, il primo ti attacca. No. È uguale. Non è uno spray per gli insetti. Direi che ti colpisce. Vantaggio. No, sono due attacchi. E 4 che 9. Vabbè, fanno poca roba, però sono tanti. 4, 2, 6 danni. Il primo, il secondo. Uno ti manca. Sì, due su di te, classico, 4 danni, dai. Ma li faccio. Ok. Non li faccio là. Questi erano loro. Ti ho messo la chest press. Ah, no, ma no, no, sentite due schianti contro la porta. Esatto, è quello, esatto. Quello che ti chiedevo l'altro giorno. Dove ti ho tenuto i bassi? Ma dopo sta stretti vicino al corpo. Beh, con loro non ho bisogno di usarla. L'unico dubbio che ho. Sulla panca inclinata, la posizione esatta. Spero di non sbagliarla. No, ok. Ma intanto c'è già altro fatta. La porta viene sfondata. Mia. La porta è stata abbastanza intuitiva, cioè te la fai come se si parla con un bilanciere, ma come non... Vabbè, siamo comunque in posizione. Il golem barcollando entra dentro la sala della porta. La porta è stata sfondata, tu sei l'unico sotto. Quindi io ho preparato l'azione. Ovvero? Che quando sfondavano la porta, chiave, craniate, dei pugni agli stronzi. Ma adesso è tutto, no, dopo è tutto. Vabbè, però la porta è stata sfondata. Quindi c'è il golem lì di carne? Però del turno prima, questo pugno, se posso. Certo che puoi. Hai fatto la tua azione, vediamo se si sfrutti bene, se no io tolgo la configurazione. Non è tranquillo. Tu mi sa un pugno. Ma Rice, 10 piedi, tra l'altro vuol dire che ho... Sì, portata. Hai portata. Ho portata, quindi posso stare un passo indietro anche. Vai. Anche due. 19. Dai, scemo. Colpisce. Il secondo. Devo prendere... Il secondo, fai il secondo. Il secondo. Ah, è la tua reazione, è un attacco. No, infatti, ecco perché, no, è uno. È la mia. L'avevi preso col secondo? Sì. Sì, l'avevi preso, però. 3 di 10 più 6, ragazzi, mi dai di 10. Tolgo la metamorfosi mentre fai danni. L'ira, ovviamente, no, non sono in ira perché non posso farlo. Immagino. Ira funesta nel peli di Achille. Oh, come tiro? Oh, come tiro? Merda. Perché non posso usare? Ma comunque, l'ira la può fare. Seriamente, non lo so. Non può usare item, non può usare... C'è scritto che non posso interagire col mio equipaggiamento e non posso fare cose per cui devo usare le mani o parlare. Secondo me... C'è scritto. Quanti danni fa? Non lo so, ma secondo me se la googlate e la rispondete subito a questa domanda. Mi sembra però prima però sapere se... Secondo me la logica la potrebbe fare. Non penso, no. Ok. Non sono magici. I tuoi pugni si infrangono sulla sua carne e lui non... Bludgeoning vuol dire... Contundente. Contundente, sì. E dimmi tu, secondo te, se no sceglielo tu il discorso dell'ira. Beh, basta googlare un attimo. Tanto cos'è friendly? Polymorph. Polymorph e Rage. Rage. Sì, scusa, Rage. Vabbè, per ora ti dico i danni. Non batte ciglio, zero danni. Ok. Zero immune. Se non sono magici. Sono adamantini per caso. No. Ok. Hai pugni da diamante. Ammazzo tutti gli altri. Va bene, questa è la tua reazione. Sì. Quindi il golem entra. Non puoi andare in ira. You lose access to your class features. Non posso andare in ira. However, polyglot does not say it cancels all good effects on target. Vabbè, lo prenderò io. Vabbè, ho. No, dopo. Quando toccherà me lo prendo in ira e lo prendo in lotta e picchio gli altri. Dice che finisce comunque. Che palle. Prendo in lotta lui e picchio gli altri. Un po' poco di okay. Oppure lo spingo fuori. Clovin continua a suonare disperandosi. Con qualcosa. Però non so se lo colpiscono le magiche. Beh, in realtà avevo detto che avevo lascia e terrolascia. Lo so, però lo butto fuori. Hai due arpie su di te. perché poi dopo tanto sei con 50 di vita che non servirà più. No, no, ma infatti va benissimo. Vabbè, provo a colpire. Speravo che almeno una parte potesse. Direi che 1 o 24. Ma le immune danni fisici è un bel pan culo, eh. Sono stato anche immune danni fisici. Sono 14 danni. Ok. Quindi cosa luce? Non era tanto? No. Ha detto che faceva anche cagare. Acido e cose così. Sei un venditore di merda. Beh, hanno poca armatura. Ah sì. Però il trattamento del 14 non è morto. Il trattamento dell'abate gli ha resi più forti. A me non ha dato però più punti di vita. Mi ha dato 10. Non sei il mio svantaggio che ti tiri per colpire, questi qua sono più grossi. Quello perché ho ucciso il corpo. I nani. Anzi, il nano e il gorilla. No, ma sempre prima lui, facciamo così. Sulla piazza di una città. Secondo me conviene spingerlo fuori. La mia vita. Vabbè, allora io che ho visto Sceo che non fa danno, faccio evoca animali e poi. Vabbè, se lo vuoi fare lo puoi fare. No, scusa, fai un cantrip su. Su quelli su Vez. Un cantrip. Però roccio, tu sei dentro, non so quello che vedi. No, curaci, curaci. Aspetta, però io non so quello che vedo. Beh, dipende non da ha senso. Del... No, raga, io faccio il cantrip. Ok, cosa dici? Su quello che ha colpito Vez. Contro, non c'è niente. Salvezza? No, devi colpire? Ne diventa. Cioè, non c'è uno che fa 40 danni. No, no, non serve. Faccio 2 di 8, però, non mi sa. Non so cosa stai facendo. Sì, sei livello 5. No. Capito, Vez? Questi lo devono far cagare, non fa cagare. Cioè, ragazzi, 5 danni. Muore. Cioè, con qua 2 attacchi, col singolo attacco fa 6-7 danni. E quanti danni? Però mi metto dietro Vez e Giulio io. Tu quanti danni? Guardo 20 di vita, che cazzo. Ok. Sono 30, sono 40 che hanno 20 di vita. Gorilla. Allora. Attacca gli altri. Sì, anche perché pensavano fossero deboli, in realtà li sfonda. No, non quindi so. Picchia di brutto. Ma ne hai ucciso uno? Sto pensando se ha senso tipo prendere in lotta lui o spingerlo uno. Via. Quello che ha attaccato e non è morto? No. Sto pensando se ha più senso picchiare gli altri e stare cioè, lì oppure spingere via lui. No, picchia gli altri. No, stai lì, tanto già lì sei mezzo al cazzo. Sì. Non ti può passare. Secondo me torniamo al piano delle acque, cioè se questi hanno 30 di vita lui uno. E niente, picchio quelli piccoli per intenderci, sì. Evito lui se ho capito che. Dividi gli attacchi perché magari sì, prendiamoci uno alla volta. Allora, 26. 26 col primo. Se lo colpisci. Bravo, scemo. 24 più 6, 30. Danni? Sì. Muore. Un altro. Bravo. Meno bravo. 14, 20. Ok. Devi dire muore. No, tra i 20 e i 30. Devi dire muore. Più di 20 meno di 30. Non muore. Hanno 22 punti vita, perché se noi prendiamo la media del mio attacco sono 22. Non hanno 22 punti vita. Okay. Vabbè, comunque. Gorilla. Attacco... Questo quello che stiamo focussando. Quello che è già stato colpito. È un bassacco. Sì, è tosta. 17, 15, circa scusa. 25 punti. Quello che addosso a lui si colpisce. Sì. Cazzo, io pensavo, ha detto che era pensavo 9 danni. Pensavo anch'io. Gli arbusti, ma giusto che l'altro. L'altro. Crit! 2,20, che culo! 16. E poi faccio anche l'ultimo attacco. 2,20! 11. Sarebbe stato critico se non avessi avuto svantaggio. 11 colpisci. Slicco con il di back anche Boccelli. Sì, c'è di buono che fatto 13 danni. Mi ha fatto uno di danno. 3. Colpiamo quasi sempre. Ferito, mi no, io sì, tolgo la concentrazione. Io sento comunque più nuovo a colpire anche se. Sarà di fare 2. Però di solito faccio anzi, no, un di 6 più 6, qua faccio 3 con 2 becchi. Con 2 becchi. Con 2 becchi. Quindi sì, se fai uno. Solo col fumble. Fanno 20. Ti fai un bronzo di danni? Sono più lento di quello che pensavo. No, quella sì. Sto pensando al gol. No, di carne. No, la cosa buona, a parte i danni, è che tu. Io sto lì a prenderle ora che vado. Hai un botto di vita da scalare. No, sto pensando a come fare. In generale, come uccidere il gol di carne. Se arrivano degli altri da qua. Ah no, tu lo devi spammare da sua magia. Devono farsi tutta la strada. A un certo punto, quando tu. Nel seccato un po' degli altri, posso diventare una creatura io? che gli faccio d'animagico. Io divento un nano e faccio d'animagico là. Stiamo di botte così. Anche perché male che vada possiamo entrare dentro la porta, così siamo due contro uno. Sì, sì, sì, sì. No, okay. Se sentiamo tutti gli Yaz, poi facciamo il boss tutti insieme. Allora. Muore. Ma quanti sono? Più o meno vedo quanti sono. Beh, un po' però sta arrivando da meno parte. Di 30. Quelli sotto da voi. Quelli piccoli io intendo, quelli senza piccoli. Contare il golem. Sì, sono meno, meno di 30. Sono 28 perché due li esci. Esatto. A uno l'ho ucciso purtroppo. Da sono 29. Allora. Ok, non possono farlo. Il golem prova a spingerti indietro. Sulle scale. Ma c'è vantaggio. È un tiro contrapposto? Sì. Hai vantaggio. Di forza o vantaggio? Perché? Ah, ok. posso usare Athletics quindi, sì. Cioè uso Athletics. Quella che ti conviene. Sì, Athletics. Tiro prima io, prima tu. Insieme. Sì, a 10 piedi da me. Sì, bravo, Sceo! Lo tira dentro da dal mattatoio diretto. Hai vinto. Lo rimbalza, ma. Si vede che è l'ansia che tolga la metamorfosi, che dici che performa di più sotto minaccia. Ok, e con l'altro ci riprovo. Falso. Fa la stessa cosa? Sì, vai. Sciocco. 17. 17 quanto ha? 14. Lui ha più 7. Ma andate bene, io ho fatto 1 più in di no, te. Tra l'altro, non è che ho fatto. Tu cos'hai? Ho più 9 di atletica. No, solo la forza. Quindi ho fatto meno comunque. Buono. Merda. Più 6 in forza. Ok. Spingere un gorilla non deve essere questo incontro di sumo. Perché gigante. Dobbiamo fare un'usita alla zona. Adesso proviamo a spingerlo. Clovin continua a suonare disperando. Si va a perché distrarre. Il gigante taglia enorme, non è grande. C'è l'arpia ancora. Sì. Se ci fosse Emanuele avrei fatto un sacco di allusioni sul pene di questo gorilla. Che in realtà, ma ha commentato la foto di Emanuele. 8. È ferito, ma ancora in piedi. Sì, quella che abbiamo messo oggi. Ho fatto battute sul tennis, però. Non lo so, l'ho vista condivisa. Emanuele Marchesini è stato taggato in. Ah, no, no. Nano e il gorilla. Sono riuscito a uccidere. Tocca a me. Quanti danni hai fatto? 8 e il secondo bancato. Buona, vai a stirare 2-3. Certo, veramente. Gorilla e nano. Io countrippo quello su cui Vez a quanto pare lo sta lisciando. Se no aspetta. Vabbè. E lo macchio. E lo liscio ancora di più. E io continuo. Beh, liscissimo ora però. Cos'è che stai dicendo? Gorilla. Mi deve da spingere lui però. Per spregio. Lo spingo lui. Perché spingi lui? Perché lascialo fare. Perché sì. Lascialo fare. Mi ha voluto spingere. Lascialo, è una mezzanotte, secca sti cazzini di me. Sì, sì. Ma cazzo, ha fatto anche poco. 16. Chi stai attaccando? No, mi spingo via lui. Ah, spingi via lui, quindi sì. Mi prova a resisterti. Ok, ci riesce, va bene. 20. Va bene, colpiscono di Nicoletta. Ho fatto sparcare un 20 così. Ah, cazzo. Ah, no, sì, 12. Giusto, no, colpisco sempre. Quello che hai ferito prima, immagino. Sì, esatto. 16 dovrebbe morire. Sì. Gattas. Vabbè, ci stava di rispingerlo, ma spinto, boh, vaffanculo. Poi non ce l'ho fatta, però. Attacco un'arpia. Se era qualcosa, quando sarà ora che devi io. Perdere tempo. 22. Ma non ti critici mancati per il fatto che ha svantaggio, ragazzi. Ah, la medicina del corvo. Quel corvo. 9 danni. Ma ogni volta che sfiora un critico, poi gli passa un corvo vicino fa, no. E se ne va. Non c'è nessun altro, però, nei paraggi. Cioè, puoi sparare, però. Mandare giù al piano terra? No, cazzo, che vado giù. Beh, puoi sparare. C'è solo Clovin che suona. Non c'è altra gente. Puoi sparare tu. Dici che gli altri che sono andati in altra direzione sono adesso dentro al mattatoio e stanno salendo le scale. Ma perché non dovevano arrivarci? Eh? Da dove vogliono arrivarci? Da dietro? Da chi è andato dentro il mattatoio? Ma dal cortile giù vedo qualcosa. Ma chi è andato dentro il mattatoio? Stanno, alcuni dei sono quelli che provano a entrare di qua. Ah, non sono tutti che stanno entrando di qua. Alcuni si può sparare, dietro, ma no, un quadrello di balestra. Ah, ok. Non so, okay. Però. Se perché non posso fare con la balestra, tu puoi fare un solo attacco. Però se io ho fatto un attacco con melee, posso cambiare. È difficile perché dovresti cambiare se, altro. Se ce l'avevi già in mano, sì. Io posso interagire con due oggetti gratis. Perché combattere con due armi. E io non ho interagito con nessun oggetto gratis. Ancora. Quindi puoi tirare fuori la balestra e sparare col secondo attacco dell'extra attack. Non era caricata. Ah, era già carica, no? Vabbè, sì, non l'hai usata, era già carica. Sì. Sì. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Allora la tiro fuori e sparo nella folla. Nella folla. 11. Nella folla di qua o nella folla di qua? No, nella folla. Beh, per quello che cambia. Nella questi folla... stanno salendo per venire addosso a voi. Vabbè, ho capito, ma escono da qua e poi si devono fare tutti gli spalti. Come vuoi. Cioè, c'è più tempo per quelli. Sì. Però salveresti Clovin. Cosa me ne fai di Clovin? Sparo Clovin. Spare Clovin. Per quale delle due teste? 6 più 2, 8. Sono un D8, ma è okay. Pesante? No, io ho la light. Allora, quelli che sono di fronte a te si ammassano su di lui cercando di aiutarlo a spingere. Prova a spingerti con vantaggio. Ceo! Non ho paura, 22. Bravo! Che fa? Che schifo! Ma in realtà lui è solo più 4 forza, quindi. Oh! Zucca? Mamma mia! Ceo li sbatte fuori tutti, li manda fuori tutti quanti di nuovo. Ci proverà col secondo attacco. Ma Ceo! 24. No. Bob! Perciò dovrebbe fare 20. Pari! Quindi cosa succede? Però vince lui! Palla contesa, palla la difesa! No, perché la CD la mette lui. Basta leggere cosa c'è scritto. Lui mette la CD di 24 sì, per resistere. Lui troverà qualcosa che gli troverò cosa in teoria no. Chi fa l'azione pareggia la CD vince. Però scusa, dopo tutti i cazzini so, non possono fare niente. Fa l'azione. Hanno aiutato. Io gli metto io gli piazzo la CD. No. C'era sì. Scritto è a discrezione in teoria di piazzare le regole in modo da infastidire il giocatore. Quello è vero. Cioè dipende perché se è vista come io che gli piazzo una CD, lui la pareggia quindi vince. Basta vedere prova contrapposta. Questi sono i talenti, però. Pari, stallo. Questi sono. Se li fa. È tipo. Siamo tipo così che spingiamo uno verso l'altro. Azione. Showing. Allora. No, il mio scudo c'è scritto così. Contest. Check. If you win the contest. Cosa vuol dire win the contest? Quindi devo andarmi a vedere il provato contrapposto. Se ad esempio quella gigante spinge un ruolo indicabile, magari pareggio. Perché sta guardando le email. Tu ricevi le email che ti spiegano le regole di D&D? No, non le fa. Sono le sfide di pare. Di pare. È strano che non lo dico. Sì, non lo dice, cioè dice se vinci così, però non dice la. Devo andare a vedere nelle prove contrapposte. Che quindi saranno tipo all'inizissimo. Dove spiega le caratteristiche. Il problema dello spingere è che mi circondano se ci riesci. Il tuo ordine che include il bilanciere è stato spedito. È grappling, no? Sì. L'ordine che include un chilo di noci pecan è stato no, è show. Era già letto quello, devi andare a vedere le prove contrapposte. Che non ricordo dove stanno. Dov'è che descrive le caratteristiche? Back straight, ok. Prima. Mi aspettavo fosse una delle prime cose, ma a quanto pare mi sbagliavo. Era più da 3.5 quando li sapeva tutti a memoria. Ricordi, Beth? Allora. Vomitava dadi. Ma ability checks. Con l'ability check the character of those attempts to make sure the chance of the character is checks, passive checks. Sono vicino, sento l'odore della presa. Contest, Sometimes one can't have a most effort and a direct opposed to another. He's gonna come above, blah blah blah. Replace with a boss and tries to force. Non so. È pagina 174. Both parties in a constant make media checks. They apply appropriate. They compare totals, ok. Check la situazione total rimane la stessa come. Sì, the time situation remains the same. Io avevo detto the same. Pratica non riesce. The same, quindi succhia. Succhia, cade a terra. Gorillosa. E quindi a prono, a terra, come era prima. Oh, adesso prende anche danni fisici. E cade anche, non so gli altri mogri, le muoio. Ci vado sulla buccia di banana gigante, di banana gigante. Donkey per gli amici. Donkey Kong. Sì. Sì. Ok. Mentre Clovin suona, si spalanca questa porta. Oh, ci starà anche provando, ma prova veramente di bene. Non dire anche a lui cose che puoi forse sembrare. Eliminare una perché delle tu devi frecce fare... potrebbe aiutarlo. Perché tu devi far incazzare i PNG? Magari è vero, però, se gli abbassi la testa sfigata, la testa positiva, riesci a prendere il sopravvento. Quale delle due era? Freccia tutte e due. 10 piedi. Una era quella giusta. Quindi ce ne sono. No? 10 che si dirigono di qua, 10 che si dirigono di qua. Sono più di 30 però, quindi io ne ho solo 10 davanti. No, tu devi sapere tipo comunque. Cioè, no, aspetta, sopra. I meno di 30 sono solo quelli che ho io. Sì. Tu ne hai 20 sotto e noi ne abbiamo 20 sopra. Sono comunque meno di 60. Vardistra. Faccio dove lotto. No, è un po' lontano. Quanto arrivano da lui? Teoria? Loro hanno appena fatto 20 piedi sugli spalti e voi siete dall'altra parte. Ogni quadretto sono 10 piedi. Beh, in un turno arrivano addosso, no? No, guarda quanti 20. Quadretti sono. Fanno 4 quadretti correndo. Quindi, no, sì, allora c'è. Allora gli sparo con l'arco. It's the only way. Quante frecce hanno? 20. Misero. Faccio 8. Però al secondo colpito. Attacco 8 in totale. Sì. Ah, ok, credevo di là. Dipende anche più. Ah no, sono un tiro con l'arco forse. No, se è l'extra attack ne hai due. È con la balestra, insomma. Diciamo cambio, io la balestra con l'arco. Sei. Beh, magari sto usando i gorilla scarsi, nano. Ma non ha fatto gorilla? Un gorilla gigante, non un gorilla nano. Scazzato! Spara un qualche incantesimo sui 20 tizi che ci stanno venendo contro, tipo. Sì, adesso sì. Intralciare, non so se devo vedere se la tiene concentrazione. Teoria su un terreno. Ma che sono... qualcosa tipo palla di fuoco non ce l'hai. No. Intralciare non è sul terreno. Giulio, quelli di quarto li ho già presi. Non è che ne ho presi di cose. Cioè, non ho delle cose da dare. Palla di fuoco è tipo il secondo. Non ce l'ha il druido palla di fuoco. Vabbè, qualcosa di simile, insomma. Hai detto un cazzo di orso. Cioè, tutti i miei incantatori hanno sempre avuto incantesimi di danno. Là fai le tue cose. Ah, io... Uga. E picchio. Farci, guarda che diventi un orso e cominci a ammazzare sta gente. Se mi tirano uno schiaffo, lui diventa di nuovo una formica. 22. Colpito. Ma se sei un orso, non ti lo schiaffi. Io 26. Sono molto più grosso del mio. Danni? 26, sì. Muore. Easy. Sì, vabbè. Te ne mancano... 28. 16, colpito. Com'è entra il challenge, questa cosa qua di merda? 9, 11, 17. Guarda quelli del druido. Thunderwave. E poi rido. Rido come può. Come cazzo ride una scimmia malissimo. Però rido in faccia al tipo. Sono spari dei country. Ma faccio questo. Faccio lo yak. Intanto che. Sparo con la balestra. Non so come si chiama. Druid Spell. A uno. Tanto vai, quanti incantesimi da parte di sopra o dalla parte di no, sui spalti. Scusa, ti ho cantato. Io dove ho la gente? Cazzo, dove ho la gente? Scusami che vedo. 10 stanno facendo questa strada. 10 tu stanno facendo questa strada. E qua c'è la massa degli altri che sta cercando di entrare. Quindi sono i più vicini. Quelli a sinistra. Sarà il tag alla tua sinistra, quindi verso nord, sono qua, sì, quindi qua a nord, sì. Potrebbe 12 danni da no, capisce. Aspetta, sono 10. Graspi and Weeds and Vines, il dei vini e della droga, di fatto. E escono da terra facendo diventano 20 piedi di erba che squarciano starting da un punto con the range. Sì, ma cos'è? Ah, dice che per questa droga che escono delle piante, ma è concentrazione. Sì. Non puoi fare. Non lo so. Fai un cantrip. Tanto lui non può farlo. Sì, che lo può fare. No, perché è in mezzo a noi. Mi posso muovere. Esatto. Ah, perché tanto lui. Ho capito, così dopo sei esposto e ti beccano. E mi rimuovo. Sono molto distanti, quindi no. Tanto lui cosa fa? Puoi spicchiudere. Parla con loro. Tipo in 5-10 piedi intorno a te è ondata di tuono. L'area di Thunderwave è un po' strana. Ma tu puoi scegliere tutti questi? Perché se cioè, tu sei. Se tu sei qui e lo fai di fronte a te, tipo becca un'area. Spike così. Growth? Uguale. Ma fa merda, raga. Fai un cazzo di. Faccio un counter su quello che ha focussato Giulio. Sì, tanto l'ho mancato. Becco. Sì. I 2 di 8 11 ok danni. Quanti li avevi fatto tu? Non l'ho beccato. Ah, ok. Tocca a loro. Parli poi promissi. Cioè io ho anche lo svantaggio su tutti i tiri che faccio. Lo svantaggio è tira una volta solo. Non c'è proprio. Perché? Perché con la balestra fai un attacco solo. Quelli sulle spalti arrivano all'altezza dell'armatura. Ma sto qua non può tirare dei danni per convincerli se davvero ci crede. Tirare dei danni per convincerli? Dei dadi. Cioè qualche. No. Scusa, ma non potete dire che l'arco te lo passa, usi l'arco e glielo passi. Tecnicamente è fattibile. Condividete l'arco. Però finiamo le frecce in due turni. Il punto è che il Vez di fatto lui crede di fare qualcosa di utile, ma che ha tutt'altro effetto, ma non lo sa. Vabbè, abbatti Vez, scusami, abbattete, sparo. Giocate da metagame sempre, adesso non si può. No, in realtà io gli avrei sparato subito sto tizio. Dopo faccio un tiro sulla mia volontà. Quelli sotto danno di nuovo una mano al loro povero amico. Quanti ne hai seccati ancora? Due. Proverà a spingerti. Uno e mezzo. Scusa. Devo spingerlo. Due e mezzo. No, adesso in questo turno. Ah, vai. 14. Oh, cazzo, finalmente. Ti spinge indietro di 10 piedi. Vai di due quadretti. E ti dà un ceffone. Beh, questo lo vediamo. 12. No, porca troia, 12. Che sfiga. Ce n'hai di vita. 160 danni. 13 danni. Che paura, vado a 144. Poi. Sai il fenomeno. Poi. Beh, una volta. Sì, questi danni la metà conta come danni. Beh, comunque non li devi far passare. Quelli dietro, che a quelli che spingevano, passano attraverso i loro amici. Intanto è terreno praticabile. Ricorda che io sono in Sì, si becca degli schiaffi belli di opportunità, perché lui ha portato a 10 in avanti. Ma finché loro stanno dentro la portata, l'importante è che non esca. Ricorda che io sono in orme. Li gira intorno. Sì. Finché tu giri intorno a uno, puoi fare quanto ti pare. Non già sono già intorno a verticale. Scusa. Basta che non esci. E quindi 10 di loro circondano il golem, il gorilla. No, ormai è del golem. Il golem. E quindi tocca a Ceo. No, è già fatto. Il golem ti ha spinto, questi sono passati. I tizi sono arrivati a quel punto che vi ho detto. Vanessa. Sì, sapevo. Dai, Vardi! Provo a colpirli. Non ridere prima di tirare, però credi. Comunque, raga, la vostra strategia è geniale. Ci mettiamo sugli spalti, li bombardiamo dall'alto. Sto facendo un cazzo. No, non ha funzionato. Io uno 8 danni ne ho fatti. Abbiamo perso il tempo. No, io pensavo che avessi anche degli incantesimi da lanciare. Soprattutto tu. Critico. Oh, bravo, ragazzi. Vedi che questa invettiva ti farà. Solo che è inutile perché devo. Cioè, alla fine raddoppio un D6. Raddoppio uno. Vedi. Questo lo posso ritirare. 6! No, solo grande. Hai ragione. 7. 7 danni? Sì. No, più la forza. Mezzo d'arco. No, destrezza. Destrezza. Io ho destrezza. Sei sicuro che non sia spastico l'arco che puoi usare che la forza? No, sì. Faccio il secondo? Fermo. Sì, puoi fare il secondo. Che ovviamente è un 11. No, il 7. Patk o Garrosh? Ha un trippo quello che ha focussato prima con 11 di vita? Cioè 11 danni gli ho fatto prima? 4 di 8, madonna, se gli esplode la face. Tirano che... un altro. Vabbè, ti ha visto che se non faccio, no, faccio questo. Vabbè. Vedi, fa 8. 12. Sembra un 2. 14. 16 danni. Esplode. Visto? E... Gorilla. Comincio a menare quelli che ho intorno. Vai, vai. Quelli verso dietro. Oggi no, uguale. Fai prima quello che avevi già scordito. Sì, esatto, finisco quello. Sì. 22. Buono. Un altro un metro di cello. Vabbè, colpisco. 17. Secondo te come c'è sempre colpito? Di danno? Sì. 17. Ah, che no. Cazzo dici? Hai fatto 8, 2 e 1? 11 più 6. Ah, no. Hai fatto 1. Sparo con la balestra. Undici. Capito. Dai, dai. 8. Cosa? Ah no, era un tons. Ok. Quindi va... questo Ratas sta ai mongrel, quindi quelli che sono nel bastione nord da lì arrivano fino a 1, 2, 3, 4. Ok, arrivano dove siete voi ma non possono attaccare. Sì. Ah cazzo, ci vanno addosso? Sì. Via la porta, raga. Che erano arrivati qua, 1, 2, 3, 4, arrivano. Dove siamo? Siamo sulla porta. In effetti se riuscite a sbarrare la porta e scendete con me. Può aver senso. Allora, vogliamo interrompere qui? Io la prossima volta. Sì, mi piacerebbe continuare, però in effetti sì. Anche a me, però è lunga, cioè nel senso. Sì, non ha senso uccidere altri tre. E... Vuoi metterti degli appunti? Sì, mi scrivo a che punto siamo arrivati. Puoi scrivere tranquillamente Sceo circondato. sì. Sì. Ma quanti, cioè, vedo più o meno quanti sono rimasti adesso. Allora ne hai una decina intorno più altri 10 più o meno, più fuori ce ne saranno a un'altra quindicina. Che cazzo hai visto? 30, 60. Ah sì. Sì. Ah sì. C'era 59. Beh no, 30. Ah sì, hai ragione. 20 sopra, 20 sotto, fuori 15. No, 10 sotto da sopra. Sì, era 20 quando sei entrato. Magari a un certo punto scapperà. No, davanti a me ne avevo circa una trentina, adesso sono circa 25 perché ne ho eliminati alcuni. C'è anche ci fazio infatti pur in realtà il guard della carta, perché carta aveva detto che erano scarsi, non è vero. Beh, in realtà non ho mai detto che sono scarsi. Loro hanno detto che erano facendo cagare, però sì, yes, un quarto. Vabbè, hanno infatti un quarto? Hanno 26 di vita, ma per il resto fanno cagare. Ho capito, ti però colpisci... 26 di vita non sono pochi. Hanno una classe armatura medio-bassa. A parte che io l'ho mancato 30 volte su. Vabbè, è quello perché hai tirato male, Vez, cioè. In realtà se colpivamo tutti tutte le volte capito, erano già dimezzati. Io ormai ci voglio 3 colpi per farne fuori uno. Vabbè, perché adesso sei a distanza, se vai in corpo a corpo ne secchi uno a turno. Come? Quando sei? Quando era l'otturno? No. Cioè, quanti danni fai più normalmente? Tocca a lui. La tua arma. Non ne faccio così tanto. Cioè io quelli che ho fatto prima che erano tanti, era perché sbaitavo, ma mica posso sbaitare. No, tu normalmente in corpo a corpo cosa tiri? Un D? O di 10 più 4 o 2 di 6 più 4. In due attacchi ne uccidi uno. Sì, Tu urli due attacchi se tiro al massimo. In tre attacchi ne uccidi due di 6 più 4. Attacchi vuol dire un turno e mezzo. Sono 40, sono 50. 7, 14. Nel frattempo loro fanno 18, 22. Nel frattempo loro fanno 15 turni. Fanno 15 danni a testa ogni turno. No, se ne fanno uno, due attacchi a testa. Beh, 10 di meno. 10 per 50. Sono 50 attacchi. Due attacchi fanno. Ma se colpiscono adesso, dai, che... cioè, non è preso sempre. Sì, ho tirato l'altro. Come decine di danni? Fanno di 4. Su voi non lo so, su me perdo sempre. Quindi non è una decina di media. Vabbè, più la forza. Ah, 26 sono 7 di media. Più la forza, ma anche capito? Cosa avranno di forza? Più. Beh, allora 6-7 danni a. Sì, 6 danni. 6 danni a turno. No, no, beh, ce la possiamo giocare. Bene. Sì, il fatto di esserci divisi non è sempre lo spirito di questa campagna. Gli arbusti ci salutiamo con quest'area di disperazione e rassegnazione. Potrà esserci divisi, però ci siamo divisi bene, perché adesso basta che voi fate un passo indietro e siete con me. È anche sfiga. Siamo divisi, sbarrati in due in quel senso. È anche sfiga che io sono maledetto, perché se non fossi maledetto sarei un frullino. Se voi adesso fate un passo indietro e sbarrate la non porta. Nonostante questo, l'angelo l'ho battuto io. Quelli giù, i pochi turni li facciamo fuori tutti. Rimane il golem di carne, che lì se non avete magia per farli fuori. Cioè, tu in teoria hai l'ascia che fa danni magici. Sì. Tu hai un'arma magica. No. Io sì. Se ma... non l'avrei usata, non avrei preso la sua ascia, no? Giusto. Ehi, ho questa spada magica, ma prendiamo l'ascia di. Oppure possiamo anche il mio compagno che morto. Scendete. E molti dei piccoli li abbiamo uccisi, posso ritornare nano e anche lui fa dei danni a quel punto. Appena mi tolgono tutti i punti vita da gorilla... No, ha senso sta cosa di essere divisi. Perché dipende come... Almeno non siamo circondati a 50 tizi. Sì, sono d'accordo. Però voi adesso siete in 2.5, perché lui deve stare concentrato e ne avete 20 addosso. Dipende come... Cioè, non ci possono attaccare 20 a turno. Vabbè, ma lui... Cioè, no. Senso... Vabbè, io alla peggio divento un animale. Ma tu esatto, cioè, comunque, se ti becchi un colpo, non è detto che la perdi, la concentrazione. No, è che qualsiasi mio animale è molto meno concentrato. Io con il mio nano ho dei tiri... Quasi, e le vocazioni... Ma ragazzi, cioè, se lui sta dietro e fai counter, va benissimo. Ma fa qualche altro incantesimo, cioè... La vocazione di Balalia è pure quella, è la concentrazione. Allora, quando sceo... perde la cosa, è chiaro che però prima che lo tirano giù comunque faccio metto ragazzi non Sceo comunque un e mezzo turno lo secca allora Sceo sta giù e deve continuare lì, noi due stiamo qua su e lui o ci cura o fa un counter poi secondo sì, cioè quantomeno voi rallentate il più possibile, sì, no, perché sta dietro ci no aspetta no ho sì, detto pure che ho due altri incantesimi di cura, ho detto una cazzata perché se voi scendete allora sì che siamo scusa esatto due incantesimi no ho detto una cagata se voi scendete allora sì che siamo circondati. Perché arrivano questi venti anche porta, da dovete tenere buona porta. Quando si arriva alla porta arrivare contro a testa, 4 alla volta. No, 4 in totale, non a testa. Se vi mettete proprio sulla soglia, dentro. Se il voi vi gigante mettete qua. Preparato. Se voi vi mettete qua proprio. 1 e 2. Sì, cioè posso essere. Fai che te ne arrivano 4 perché sì. Va bene, 4. 2 a testa. 2 a testa, cazzo. Ho voglia. È la prima cosa che puoi fare sui compagni. Con uno dietro che comunque due di cura ce li ha. Sì. Io intanto sotto prima che mi facciano tutti 140 passi. È che è molto lunga però sì. Molto lunga però è figo come sì, lunga. È lunga però siamo in teoria favoritissimi. Cioè. Oddio. Cioè vediamo poi i gol di carne come ci arriviamo per affrontarlo. No, l'unico che rimane quello. Il problema anche sai qual è. Cioè di buono che per ora spostare comincia a salire su. Per ora ha funzionato il piano del barricare la porta perché lui ha perso tempo nello spingere a far entrare, ma tu probabilmente devi cominciare a arretrare su. No. No invece. Se ti spostano e cominciano a salirci sopra. Però siete circondati voi dopo. Grazie, Sceo. E se veniamo su siete circondati anche voi dopo. No, se devi occupare di passare la scala, capito? Devi occuparti la scala. Ah, quello lo posso fare, sì. Sni, perché se mi spinge lo posso su da voi. Sì, vabbè, anche se spinge. Se io sto lì è quello del gioco. Scusami, cioè, se si spinge, vabbè, vai su. Tu vai su, ma sei comunque davanti, capito? Sì, però il discorso è che mai. Cioè, loro è che il discorso è che se tu sei laterale, loro passano sopra. Cioè, adesso tu dovresti fare un passo indietro. Sì, e occupare la scala. Provare a farlo. Perché anche se ti spingono, comunque te ne aiutano. Sì, perché tu sei enorme e non possono passarti senza, sì, senza fare la cosa. Anzi, sono anche soli di fatto può stare sulla scala. Un gorilla gigante su quella scala, boh, non credo ci stia. Sarà una scala umana. Cioè, boh, basta che sia davanti. C'è un piede, capito? Sì, sì. No, no, capito, capito, ha senso. Sono Hulk in questo momento. Va bene. Salutiamo. Bene. Grazie a tutti. Per nel caso dovessi ascoltare questa parte, Ginny, riguardati tutta la diretta perché ci sei mancata. Guarda, i primi 10 secondi. Va bene, ciao a tutti e alle prossime sessioni con Tycoon Sandrino e la variazione di Katta. A caso direi di sì, vediamo. Io forse. No, ditemelo perché io nel caso mi tengo libero. Io forse oggi perché domenica ho un matrimonio, quindi non so come arrivo lunedì, magari sono sfatto. Ciao.